Qui al nostro tavolo troviamo Nicola Nicolosi, che è segretario della CGIL nazionale ed è coordinatore nazionale di lavoro e società, così almeno ci porterà le ultime nuove su quanto sta succedendo in CGIL, nonché le decisioni prese all'ultimo comitato direttivo. C'è il professor Pier Giovanni Alleva, che è un giurista del diritto del lavoro, che ha collaborato per anni e anni per la CGIL nazionale per quanto riguarda tutta la parte legale, e poi vabbè c'è Matteo Mandressi, che è il segretario della funzione pubblica, che penso tutti voi conosciate. Io darei, per cui, se siete d'accordo, immediatamente la parola all'avvocato Alleva, che ci farà un attimo il punto della situazione su quel disegno di legge del mercato del lavoro e della riforma dell'articolo 18 e non solo, su quale c'è una profonda discussione e su quale le posizioni sono le più variegate, tutte però che hanno secondo me un fine unico, discutere su questa cosa, questo disegno del lavoro che di fatto non risolve niente per l'Italia. Secondo me è semplicemente, non secondo me, chiaramente, perché non è che sono nessuno, per cui è un disegno di legge che in qualche modo è una regalia dell'Italia nei confronti della Banca Europea, appunto, perché non porta né sviluppo né migliora le cose né porta assolutamente niente rispetto a novità delle gravi crisi che stiamo vivendo in Italia. Io la chiudo subito e passo la parola ad Alleva. Nel commentare il disegno Fornero mi sento un po' come il vecchio Gino Bartali quando diceva che è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, perché purtroppo è proprio così, non si salva niente in questa cosa, e ve lo vorrei spiegare scientificamente, diciamo, per quanto sono capace, perché vedete ciò che hanno cercato di raccontarci mediaticamente, che sì, certamente c'è stato un abbassamento, un decalage di tutela sui licenziamenti, però ampiamente compensata da una stabilizzazione, una maggiore serietà nell'ingresso, una riduzione del precariato e poi un nuovo sistema più giusto di ammortizzatori sociali. La prima cosa è parzialmente vera, nel senso che c'è stato altro che un decalage, cioè una vera e propria manomissione del sistema di tutela contro il licenziamento giustiziale. Le altre cose sono assolutamente false. Non soltanto non si è limitato il precariato è stato aumentato follemente, e lo vedremo. E quanto alle ammortizzatori sociali, per fortuna che si tratta di una riforma che dovrà entrare in vigore nel 2016 e speriamo che da qui allora tante cose siano cambiate. Dico per fortuna perché se quel sistema, come scritto qui, fosse già stato in atto nel nostro passato, noi oggi non avremmo più né Fiat, né Ansaldo, né Breda, né Fincantieri, niente, nessuna di queste grandi imprese, perché avrebbero tutte chiuso per mancanza di possibilità di finanziare le ristrutturazioni attraverso le quali sono passate. È un concetto di malthusianesimo sociale, quello che viene ispirato, tutto si riduce sempre soltanto a una indennità di disoccupazione, più o meno lunga. Quindi i soldi sono sempre gli stessi, sia che siano dati in indennità di disoccupazione, sia che siano dati in cassa integrazione. Qual è la differenza? La differenza è politica, perché finché i lavoratori sono ancora dipendenti di quell'impresa, sono una realtà politica, sono una presenza politica. Dopo non sono più nessuno, sono soltanto soggetti che soffrono individualmente e rimessi, diciamo, a quella che può essere una forma di assistenza sociale. E questo è il sistema americano, anglosassone, l'impresa organetto che ha, che licenzia e assume, il contrario della nostra tradizione, la tradizione europea, italiana, ma soprattutto tedesca del nord Europa, nella quale invece l'impresa è già un bene sociale e quindi va conservato quanto possibile, i lavoratori sono una delle principali risorse. Lo dico rapidamente questo perché come spero appunto di poter dire, beh vabbè, è stato un manifesto di tipo ideologico neoliberista, questa terza parte, da qui al 2016 tante cose non ci saranno più. Quando penso ad esempio alla abolizione, non perché l'avessi scritta io, ma insomma c'ero affezionato, della cassa integrazione concorsuale, che addirittura era diventata un pezzo integrante della legislazione fallimentare, perché va letta ormai insieme all'articolo 105 della legge fallimentare sulle procedure di affitto dell'impresa fallita, che viene finanziata nel frattempo con la cassa integrazione. Queste esperienze importanti che sono state fatte vengono cancellate da questi analfabeti, i quali nulla sanno, ma quello che sanno è che credono, perlomeno credono, che appunto debba avere il concetto che l'impresa, se non è in grado di guadagnare, deve comunque subito licenziare. Per fortuna che gli stessi datori di lavoro non sono stati convinti, perché sono sì neoliberisti in concreto, ma poi individualmente protezionisti, e quindi questo pezzo di riforma è andato al 2016. E per il 2016 speriamo che non ci siano più loro come ci siamo noi. Veniamo invece alle due parti, la prima e la seconda, che sono purtroppo stanno per diventare leggi a quanto sembra. E io dico anche, non è forse il mio mestiere, ma insomma la testa ce l'abbiamo non soltanto per fare il combinato disposto delle norme. Dico che in questo momento in particolare sono desolato dal fatto che questa legge dovrebbe essere approvata, perché non ci vedo più, adesso Nicola poi ci dirà le cose, a proposito, una necessità politica. Questo disegno di legge è stato voluto, non si capisce bene da chi, dalla famosa lettera del BCE che si sono autoscritti i nostri governanti. Non c'entrano niente col debito, è semplicemente un fatto di potere sociale, è lo scalpo che vogliono avere per segnare la prevalenza della grande finanza. Non c'entrano niente, ma non c'era nessun bisogno neanche di approvarlo. Dopo le elezioni amministrative, quindi con la messa in liquidazione del centrodestra e del PDL, sarebbe bastato niente a farlo andare indietro, sarebbe bastato che non avesse voluto Bersani, che la stessa CGIL penso avesse minacciato uno sciopero generale. Questa è la mia opinione, posso sbagliare, ma francamente questa accelerazione che c'è stata nell'approvazione di questo disegno di legge, a mio parere, non si spiega senza un consenso da parti diverse del governo. Questo mi addolora particolarmente. Mi addolora particolarmente perché non stiamo parlando di piccole cose, non stiamo parlando neanche degli esodati, che è un problema molto grosso, molto importante, ma un problema limitato e che viene fuori soprattutto dal dilettantismo con cui vengono affrontati certi temi. Cioè, non è la prima volta in Italia che si fa una riforma delle pensioni che rende più duri i requisiti, che sposta in avanti l'età. L'ha fatta Dini nel 95, è stata rifatta da Prodi, molti l'hanno fatta. C'è sempre stata una normativa che diceva semplicemente non si applica ai disoccupati, punto. Bastava una riga, no? Questo è nuovo, non si applica ai disoccupati. E questo salvava tutta la questione. Invece oggi abbiamo 8 categorie di persone le quali hanno perso il lavoro prima del 31 dicembre del 2011, non si riesce bene a calcolare, soprattutto c'è la grande norma perché l'indefinita categoria dei contribuenti volontari, quelli che parlano di contribuzione volontaria, è chiaro che se si assume in maniera così assolutamente a petizione di principio che siano quelli che entro 2 anni arriverebbero ai vecchi requisiti, allora sono 20.000 persone, ma quelli che invece pagano contribuzione volontaria nell'idea di doverla pagare per 5, 6, 7 anni, che è quello che tutti hanno fatto questi accordi, sappiamo bene che sono più di 200-300.000. Allora, questo è sicuramente un grosso problema, però mi permetto di dire, nessuno può pensare che sia uno scandalo, diciamo che abbia un senso politico, una norma di salvaguardia degli esodati. Questa norma non ci vuole un genio a trovarla, è quella che è stata sempre usata, quelli che erano disoccupati dal 1 dicembre non sono soggettati alle maggiori, alle nuove più severe regole, con l'approvazione, mediante, fondamentalmente mediante posizione a questione di fiducia di questo decreto, perché sono due pesi assolutamente non confrontabili tra loro. Vediamo. Allora, di che cosa si tratta? Forse già lo sappiamo, ma non è male farci una riflessione più approfondita. Allora, certamente non è una cosa nuova, ma non è mai ripetuto abbastanza che l'articolo 18 è stato l'architrave del diritto del lavoro italiano. Non tanto per i licenziamenti ingiustificati che ha fatto, che ha annullato, ma per i licenziamenti ingiustificati che ha impedito che fossero fatti. La norma ha un enorme valore prevenzionistico, un discreto valore, diciamo, riparatorio. Qui c'è il collega, ne ha fatti tanti, ce ne ha fatti tanti di licenziamenti, sì, possiamo dire che la grande importanza è stata anche di rimettere al lavoro delle persone ingiustamente licenziate. Quelle che poi effettivamente appunto entrano al lavoro non sono neanche state moltissime, ma soprattutto noi sappiamo che licenziamenti azzardati in Italia non se ne sono fatti in questi 40 anni, non se ne sono fatti perché c'era l'articolo 18. E questo significa che tutti gli altri diritti, tutti, nessuno escluso, dal fatto di iscriversi al sindacato, dal fatto di poter avere dei figli, dal fatto di poter stare a casa quando si è malati, dal fatto di poter non essere demansionati, eccetera, eccetera, questi diritti intanto sono veri in quanto c'è l'articolo 18, perché si capisce. Anche prima che ci fosse l'articolo 18, il lavoratore ammalato non poteva essere licenziato. Però sarebbe stato licenziato magari 3 mesi dopo, perché se ritorna al lavoro, perché si ammalava troppo, né la donna che aveva 3 figli di seguito veniva licenziata mentre era in maternità, ma dopo sì, e così via. Anche prima si poteva protestare contro il demansionamento, però come sarebbe finita? Anche prima si poteva protestare perché erano superati quelli straordinari, perché era stato per lavoro nero. Tutto questo è diventato, diciamo, sapere comune, i lavoratori lo sanno. Perché l'articolo 18 è sempre stato così popolare? Perché nel marzo del 2002 noi abbiamo avuto a Roma la più grande manifestazione popolare della storia europea, non italiana, europea? Proprio perché c'è nelle persone questa precisa conoscenza che se il licenziamento ingiustificato non è valido giuridicamente, il lavoratore non è ricattabile, o almeno è poco ricattabile. E ovviamente quello che si dice, che comunque il licenziamento di rappresaglia è nullo, il licenziamento discriminatorio resta nullo, eccetera eccetera, è la solita ipocrisia, la solita bugia. Credo che si sia capito bene anche questo. Io credo di aver avuto 3 dichiarazioni di licenziamento discriminatorio in tutta la mia carriera d'avvocato che è durata 40 anni. di licenziamenti ingiustificati a centinaia. E perché? Perché evidentemente c'è un costituito nella prova. Tizio viene licenziato, in realtà perché è sindacalista, o perché è donna, o per un altro motivo di questo genere, discriminatorio, apparentemente perché si dice che avrebbe sbagliato a fare un documento o un prodotto, poi cosa succede? Che io non riesco a dimostrare che il motivo vero, perché mi vai a dimostrarlo, è discriminatorio, ma neanche l'altro riesce a dimostrare che il motivo fasullo portato avanti, quello pretestuosamente esiste, e il lavoratore viene reintegrato. Questa è la situazione fino adesso. Quindi, se si tolgo la seconda parte, questa è sempre tanto. La prima è quella cosa che in realtà non serve a nulla. Allora, che cosa fa questo progetto di legge? Ci propina quattro tipi di licenziamento. Ci descrive nell'articolo 14 il licenziamento appunto discriminatorio e di rappresaglia, il licenziamento per motivo soggettivo, che è il licenziamento disciplinare, il licenziamento per motivo oggettivo e, attenzione, molti non ci hanno pensato, l'articolo 15, ma è tanto grave, il licenziamento collettivo. Sul licenziamento discriminatorio non cambia niente, tanto non conta niente, chi l'ha mai visto? Si dice anche, ma non è un regalo che ci hanno fatto, l'aggetto di giurisprudenza, che al licenziamento discriminatorio è equiparato il licenziamento di rappresaglio creativo. Cosa significa? Beh, la discriminazione attiene al far parte di alcuni gruppi a rischio, tipicamente si trattava di discriminazioni di ideologia politica, sindacale, religiosa, appartenenza razziale, appartenenza di genere. È stato aggiunto recentemente anche l'etica, l'età, l'orientamento sessuale. Essere licenziati per appartenere a uno di questi gruppi è appunto di discriminatorio. Però poi è stato aggiunto dalla giurisprudenza anche il licenziamento di rappresaglia, cioè per un motivo illecito. Qual è quello? Di rappresaglia col tuo esercizio di un diritto. Io a un certo momento voglio andare in ferie, le mie ferie sono un diritto costituzionale, non mi vogliono mai mandare in ferie, vogliono sempre tenermi attaccato al forno che vende il pane. Se io decido un bel giorno, no, io in ferie ci vado, e quello che licenzia è un licenziamento di rappresaglia contro l'esercizio di un diritto del nulla. Questo la Cassazione l'ha detto, senza bisogno di aspettare la Fornero, nell'anno del Signore 1981, cioè 31 anni fa, in una causa, sempre incredibile, che riguardava, pensate un po', un funzionario di un'associazione confindustriale provinciale, il quale per l'appunto si era scocciato, non lo mandavano mai in ferie, e lo mandarono in ferie, e se ne andò. Questi ovviamente lo licenziarono, salvo poi che questa insieme disse, ma stava esercitando un diritto costituzionale, quindi questo licenziamento, da qui voi capite che la questione si può riprodurre molte volte, ma non è facile. Certo, io a tutti i miei clienti minacciati di mobbing gli ho detto fate subito causa, perché almeno se poi dopo il disegno Fornero sarete licenziati, potrò dire, beh, è stata una rappresaglia contro l'esercizio del diritto di quell'articolo 24 della Costituzione, cioè quello di farsi rivolgersi a un giudice. C'è un problema che il licenziamento di rappresaglia, secondo una parte della dottrina della giurisprudenza, deve rappresentare però un motivo unico, che io non credo che sia così, ma non è detto appunto che si possa sempre dimostrare che l'unico motivo è quello di rappresaglia. In ogni caso, questo è, attenzione, un campo che noi dovremmo ulteriormente indagare. Noi italiani, forti del nostro articolo 18 ben fatto, abbiamo sempre abbastanza disprezzato la teoria del licenziamento discriminatorio, che è una teoria tipicamente individualista, tipicamente liberale, cioè l'Inghilterra, dove c'è liberismo, licenze liberamente, tranquillamente, però è sensibile rispetto al licenziamento per ragioni discriminatorie. Idem negli Stati Uniti. È una visuale appunto particolare, individualista, liberista, e noi non ci abbiamo mai pensato fino in fondo, perché non ne avevamo bisogno. Adesso temo che invece dovremo prendere confidenza con certi tipi di ragionamento che si fanno sul licenziamento discriminatorio. Per esempio, usare in maniera abile e corretta la cosiddetta prova statistica e alla fine forzare finché si può il concetto che un motivo pretestuoso è un ottimo indizio per ritenere che si tratti di un licenziamento di rappresaglia. Zero a zero su questo punto del licenziamento di rappresaglia. Dove cominciamo a incassare le colpe sante è sul licenziamento. Il motivo soggettivo, che può essere avuto due forme: per giusta causa, se il lavoratore ha commesso qualcosa di talmente grave che non consente una soluzione neanche temporanea del rapporto, o per cercare un motivo soggettivo, se ha commesso un grave inadempimento, un notevole inadempimento della legge, dei suoi doveri di lavoratore. Questo licenziamento è una punizione, quindi è una sanzione disciplinare e soggetta alla procedura dell'articolo 7 dello Statuto. L'anima del licenziamento disciplinare è sempre stata questa. Tutti i giuristi l'hanno detto, la Cassazione l'ha sempre ripetuto. Il licenziamento per giusta causa del motivo è qualcosa di concreto, non è una cosa astratta, non c'è un causale astratta. È un comportamento che va valutato nella sua imputabilità, nella sua gravità complessivamente, alla luce di tutte le circostanze attenuanti, esimenti, aggravanti che ci possono essere, l'intensità dell'elemento psicologico, la condizione della persona. Non è che puoi dire 3 giorni di assenza uguale licenziamento, non è che puoi dire alterco con compagno di lavoro, licenziamento. Bisogna vedere se è stato provocato, se ci sono stati beni fatto, se si sono rappacificati. Tante possono essere le argomentazioni. Questa è civiltà giuridica, chiaramente. La scelta che è stata fatta qui è una scelta di assoluta inciviltà. Vale a dire. Il licenziamento è per giustificare un motivo soggettivo, può portare sia alla reintegra, sia all'annullamento, sia invece soltanto a una sanzione di tipo economico del 12-24 mensilità. Sceglie il giudice? Non sceglie il giudice, come si era detto. Perché non sceglie il giudice? Perché è quasi una tipizzazione. Nel senso che avremo la reintegra se il giudice accerta che il fatto non è esistito, che il lavoratore non lo ha commesso o che i contratti collettivi prevedono una sanzione più leggera. Cioè noi avremo d'ora in poi la reintegra soltanto quando il datore di lavoro o è ubriaco o non sa leggere. Perché soltanto il datore di lavoro ubriaco può accusare qualcuno di un fatto che non c'è, distruzione dell'attesa di lavoro, è lì, tranquillo, oppure di aver commesso un fatto che non ha commesso, oppure non sa leggere perché non sa che per fare licenziamento occorrono 5 giorni di assenza giustificata e uno non basta, se no c'è solo la sospensione. La prima versione del disegno Fornero parlava anche di norme secondo la visione di norme di legge di contratto collettivo. E in quelle norme di legge molti di noi avevano visto, questa venne su Baunzetti, il richiamo all'articolo 2106 del codice civile, il quale parlava della proporzionalità. Nel criterio di proporzionalità c'è dentro tutto quello che riguarda le circostanze d'ambiente, in particolare le circostanze attenuanti. Sulla grande lotta della Fornero, di Monti, della Confindustria, per togliere quella criptica espressione di norme di legge, proprio per dire, fuori di quei casi, che sono casi di scuola, perché sono casi di scuola, per tutto il resto, quello che c'è nel caso di un licenziamento ingiusto è la sanzione di chi vuole. Beh, insomma, io credo che è un arretramento di livello storico questo. Inutile che qualcuno, lo devo dire, dica si è fatto argine. Che argine si è fatto? Non si è fatto nessun argine. È passato tranquillamente l'abolizione della reintegra. Vediamo l'altra ipotesi, il licenziamento per motivo oggettivo, ovvero economico, produttivo, organizzativo. Questo è stato, al principio, il fronte d'attacco della destra. Quando cominciarono queste storie, che l'articolo 18 non c'entrava niente con i vari finanziari dell'Europa è arrivato al proscenio, mi immaginavo che saremmo arrivati, avremmo sentito per cominciare la solita bugia. In Italia non si può licenziare quando l'azienda va male, bisogna che quando l'azienda si possa licenziare, ovviamente se sempre può licenziare quando l'azienda è in passivo con i problemi. Perché questa bugia? Ma questa bugia è stata detta e ridetta perché poi, alla fine, si voleva destabilizzare l'intero sistema, come poi si è riusciti a fare. Ora, sul licenziamento del motivo oggettivo, io dico questo. Noi non abbiamo avuto una bella storia, nel senso che la legge 604 prevedeva il giustificato motivo oggettivo in termini seri e per lungo tempo la giurisprudenza ha tenuto un atteggiamento serio, cioè dicendo facciamo riferimento a un equilibrio, articolo 41 della Costituzione, tra l'esigenza, il desiderio, la volontà del datore di lavoro di poter liberamente gestire il livello occupazionale della sua impresa e l'interesse di al mantenimento del posto di lavoro. Non c'è soltanto un interesse, ma due interessi che devono trovare un punto di equilibrio. Un po' per volta il neoliberismo imperante ha spostato l'angolo della bilancia verso l'interesse solo del datore di lavoro, per cui alla fine abbiamo avuto tutta una corrente giurisprudenziale che è diventata anche maggioritaria che ti diceva che qualsiasi ragione che il datore di lavoro adduce è valida, basta che sia vera, basta che sia vera. Quindi non è un controllo di sufficienza, ma un controllo di esistenza. Ovviamente se il controllo di esistenza non passa, a questo punto il licenziamento viene annullato con l'articolo 18, però molto difficile che questo avvenisse. Il disegno Fornero ha affrontato anche questo tema nel solito modo, anche se io sotto sotto viene un po' da ridere, qualche volta penso che vi sia stata una eterogenesi dei fini, come si dice, per cui tutto sommato ci hanno sì profondamente danneggiato dal punto di vista teorico, ma forse alla fine un errore l'hanno commesso anche loro, perché perché prima si è potuto dire per il motivo oggettivo soltanto indennità economica. In questo modo si creava un sistema simmetrico che non poteva stare in piedi, perché se tu che battezzi licenziamento in un modo o nell'altro puoi scendere in un ambito soggettivo dove c'hai comunque, sia pure per modo di dire, la possibilità di una reintegra, e dall'altro non ce l'hai mai, è chiaro che tutti passano. Questa cosa la vede così chiara per la capita pure da Fornero, va bene? Si è arrivati al bell'argine che è stato messo sotto la forma di in cui, per cui insomma, si può avere la reintegra anche da un motivo oggettivo quando vi sia una evidente insussistenza del motivo stesso. Che è una cosa ridicola, e in qualche maniera quasi sembra che insussistenza quasi che premi il furto, nel senso che sembrerebbe così: il datore di lavoro dice vado male, sono in passivo, devo ridurre il personale, tu gli porti il bilancio che prevede un attivo, dice è evidentemente insussistente il motivo. Se invece il bilancio porta un passivo, ma soltanto perché con un sistema di carrure, peraltro comprensibile, abbiamo toccato l'attivo e il passivo, allora a questo punto soltanto l'indennità economica, perché non era immediatamente evidente, è stato furbo, ha saputo mascherare in qualche modo, ha provato a mascherare la cosa. Dico, è un assurdo anche in sé. Però questa distinzione tra evidente insussistenza e insussistenza in qualche modo ci porta verso un ritorno di una teoria causale del licenziamento per motivo oggettivo. Cioè non è che qualsiasi cosa che paga al datore di lavoro basta che sia vero, deve avere una cosa che è insussistente evidentemente, allora mi porta a un risultato, oppure una cosa che invece non è tale ma me ne porta un altro comunque sanzionatorio. Vedremo cosa accade. Certamente i datori di lavoro hanno capito che questo pasticcio qui porterà dei guai anche a loro. In più, essendo stato messo per fortuna un tentativo di conciliazione obbligatoria sul licenziamento per motivo oggettivo, in qualche modo la cosa, pur restando gravemente negativa, diciamo che qualche problema se lo sono anche autocreato. Ma la cosa essenziale, come dico, è quell'altra. La cosa essenziale è che sul giustificato motivo soggettivo si possono sparare sanzioni assolutamente esagerate su piccoli fatti veri, perché noi lo sappiamo quanti sono, quando affrontiamo un licenziamento con l'incisione disciplinare, quasi sempre qualcosa di vero c'è, non dico sempre, ma qualcosa di vero c'è quasi sempre, ma che non meriterebbe il licenziamento. Ecco, in tutti questi casi la reintegra non c'è più, questo è il fatto importante. E poi c'è il licenziamento collettivo, cosa di cui nessuno parla, e che io ritengo invece di essere la massima gravità. Perché? Perché la nostra legislazione di licenziamento collettivo, grazie alla legge 223 del 1991, aveva sottoposto la sanzione dell'articolo 18, cioè la sanzione di annullamento, non soltanto le situazioni di errato utilizzo dei criteri di selezione dei licenziandi, dovevi licenziare 10 e non capi, ma soprattutto, diciamo, le nullità, le anomalie che si verificano nella procedura sindacale di licenziamento collettivo. Quella procedura ci ha salvato in tantissime situazioni, anche perché i datori di lavoro non erano tanto in grado di dare conto fino in fondo di quello che stavano facendo. La famosa griglia degli licenziandi, punteggi, eccetera, ci siamo andati a spasso il lungo e il largo nel farle annullare. Adesso viene fuori, perché hanno fatto tesoro nell'esperienza, che le illegittimità diverse dall'applicazione dei criteri di licenziamento danno luogo alla sanzione monetaria e non più al licenziamento. E questa è la pacchia. Tra l'altro, ogni problema relativo al licenziamento oggettivo, come abbiamo parlato prima, sarà superato da questo. Sarà superato da questo, perché conviene a questo punto andare ai 6 licenziamenti quando vuoi toglierti i lavoratori seccati, e il licenziamento collettivo corre meno problemi di quelli che corre il licenziamento. Ecco, questo è il terribile e famoso articolo 14. Cioè, poi ci sono altre delizie, intendiamoci bene, quale quella della possibilità di motivare il licenziamento addirittura in corso di causa, oppure quella di revocare il licenziamento soltanto pagando i soli giorni persi. Cioè, insomma, tutte quelle che erano le problematiche giurisprudenziali che sono emerse sono state riprese nel senso. Per questo io dico che non possiamo dire che c'è stato un qualsiasi tipo di equilibrio. Qui non c'è una norma, una che una, più favorevole ai lavoratori rispetto al passato. Tutte peggiori. Veniamo all'altro aspetto, è quello che mi ha fatto arrabbiare più di tutti. Che mi ha fatto arrabbiare più di tutti. Ed è quello che io non riesco a perdonare né a coloro che voteranno a favore di questo progetto di legge, né a quelli che in qualche modo lo ingoieranno, e che riguarda proprio il precariato. Perché, vedete, uno potrebbe dire, parlo così, ma insomma, alla fine, una sanzione economica, siamo d'accordo, ma che va da 12 a 24 mensilità, non è poi malaccio, certo, se fosse 24 a 48 meglio ancora, quindi in qualche modo un freno al licenziamento ingiustificato c'è ancora. E quindi, avrebbe detto il mio nemico Echino, alla fine, siccome adesso è finita lo schifo del precariato, regolarizziamo le persone, e vabbè, abbiamo un freno al licenziamento che non è un freno giacobino come la reintegra, però è un freno di una certa funzione. Insomma, anche i dirigenti hanno sempre avuto soltanto un indennizzo economico, però solido, il dirigente, sapete, alla fine si sentono abbastanza tutelati. Ma questa è la grande bugia. Quindi vediamo un po' che cosa abbiamo avuto. Io su questo le voglio parlare, perché non riesco mai a parlarle quando parlo del progetto Fornero, di tutto questo problema qui, che secondo me è un dato quasi più importante. Dunque, come siamo messi? Facciamo un momentino una storia sul precariato. E voglio parlare poi in particolare, visto che voi siete qui anche della funzione pubblica, del precariato come pubblico e privato, che è lo schifo dello schifo. Allora, il decreto 276 aveva tantissimi torti, anche se la sua intenzione, così come me la spiegò tante volte Marco Biagi, sarebbe stata quella di dare un'occupazione aggiuntiva. Cioè, lui diceva, sono nicchie, non è il lavoro, sono nicchie di lavoro che vengono rese raggiungibili dalla donna con i bambini, nello studente universitario, da quelle persone che non hanno una totale disponibilità al lavoro, ma che così, con i lavoretti, possono andare avanti. Scettico, obiezione, non è vero, vedrai che diventerà tutta occupazione sostitutiva e non aggiuntiva. Beh, è la storia che l'ha detto. Allora, che cosa ci dice il dato fondamentale? Il dato fondamentale ci dice che l'83% delle nuove assunzioni negli ultimi anni, sempre più dell'80%, è stato fatto con contratti a termine un contratto di durata determinata. A termine contratti di progetto, contratti di lavoro somministrato, contratti di lavoro intermittenti. Questo cosa significa? Significa che in teoria l'87% delle esigenze di lavoro che si creano nel nostro paese sono di carattere temporaneo, e che è una bugia che non salta un cavallo, perché sappiamo bene che statisticamente le occasioni di lavoro temporanee si aggirano sul 13-15% da sempre. Questo significa che 8 contratti, 9 contratti precari su 10 sono illegittimi. E infatti il collega qui potrà spiegare che noi avvocati in questi anni ci siamo mantenuti impugnando i contratti di lavoro precario, perché è come sparare ai pesci in un barile: se ti arrivano, no? Non c'è dubbio che sono tutti illegittimi, il problema è che non ti arrivano. È possibile eliminare il precariato? Certo che è possibile. Una volta che si è capito questo, cioè che non è una funzione dell'economia, come ti raccontano i giornali, cioè l'economia globalizzata dà soltanto occasioni transeunte di lavoro, perché tu devi andare a vedere chi sono poi i precari, gente che è precaria da anni. Allora, come si fa a eliminare il precariato? È semplicissimo, basta rendere trasparente la situazione. Se i centri per l'impiego, che hanno tutti i dati, che le denunce sono obbligatorie, li rendessero pubblici, cioè se esistesse un'anagrafe pubblica del lavoro in Italia a disposizione dei sindacati, accessibile ai sindacati, beh, è chiaro che i datori di lavoro ci starebbero molto più attenti. E se l'ispettorato del lavoro avesse un potere di diffida rispetto a questi, che non c'ha, evidentemente la cosa sarebbe sanata in pochissimo tempo. Io l'ho detto, l'ho scritto, non se ne parla neanche, ma quello che mi dispiace è che neanche il sindacato l'ha mai richiesta questa cosa, neanche il mio sindacato l'ha mai richiesta. E allora vi dico una cosa, scusate, visto che siamo ancora compagni, ho fatto in modo che sono andato a un altro sindacato, che si trova in vista di un altro sindacato, che ha fatto questa provocazione a un centro per l'impiego, dicendo: voglio sapere quali sono i lavoratori precari di questa e questa impresa del mio comprensorio, perché sono molto importanti e io come sindacato ho un interesse di questo genere, e vediamo cosa mi rispondono. Siccome mi risponderanno picche, naturalmente da qui avrò poi ricorso al TAR e vedremo come andrà a finire. Bene, di fronte a questa situazione del precariato, la risposta sembrava essere quella di dire: avremo un rapporto di lavoro a tempo determinato con un freno non così efficace come la reintegra, ma comunque abbastanza efficace, e una trasformazione praticamente forzosa dei rapporti precari, che tanto è vero che sono tutti assurdi, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Quando andiamo a guardare il disegno Fornero, cosa troviamo? Troviamo alcune norme che sono acqua fresca, adesso non ne parlo, e altre che invece esaltano il precariato, lo rendono sistematico e lo sottraggono al controllo dei giudici. Quali sono le cosiddette novità? Ma sono quelle che riguardano il contratto a progetto e la partita IVA. Il contratto a progetto era un piccolo marchingegno, un mostriciattolo, che già la giurisprudenza mi ha messo le corde. Perché? Perché una volta chiarito, e questo penso l'ha chiarito, che il cosiddetto progetto era il contenuto e non il contenente del contratto, beh, è molto raro che ci sia un vero e proprio progetto come opus determinato. Cerco di essere più chiaro. Quando si diceva è il contenente, si voleva dire: se c'è un progetto fare impresa, non so, il progetto, noi vogliamo pensare di fare un tunnel sotto il Gran Sasso, eh? Tutti quelli che lavorano a questo progetto, pure quelli che fanno le fotocopie, li assumiamo un contratto a progetto sul continente. Oppure il contenuto, cioè nel rapporto di lavoro, nel rapporto di lavoro tu devi dare a fare non un'attività, ma un opus, un prodotto finale. La giurisprudenza è già arrivata tranquillamente a questa conclusione, a questo punto. Ed era poi, mi ricordo perfettamente, esattamente come aveva Biagi, il contratto progetto è una cosa rarissima e che si trasforma in rapporto lavoro subordinato se il progetto o in astratto, formalmente o anche solo concretamente, non c'è. Non si aggiunge proprio niente, qui si dice semplicemente, appunto, si conferma questa cosa, ma più spesso aveva già detto. Poi si aggiunge, grande novità, che il compenso non è libero, ma è un compenso che risponde all'articolo 36 della Costituzione e che alla fine c'è, bisogna fare riferimento anche ai contratti collettivi. Grandissima novità, peccato che esisteva già da 6 anni, perché stava nella la stessa norma precisa, era nella finanziaria Prodi del 2006. Questo è il contratto con il progetto. E poi c'è stata la famosa partita IVA. Cos'è la partita IVA? Successo che quando il contratto a progetto si è visto che non funzionava, i datori di lavoro hanno fatto un salto completo. Cioè invece del rapporto di lavoro para subordinato sono andate al contratto di lavoro autonomo per eccellenza, che è la partita IVA. Cioè la legge sull'IVA ti dice, ti mette chiarissimamente questa differenza, dicendo che nell'esercizio di professioni o mestieri rivolti al pubblico c'è l'IVA, che però non va pagata in caso di rapporti di lavoro coordinati e continuativi e parasubordinati. Quindi lì c'è la differenza tra subordinato e parasubordinato nella legge sull'IVA. E naturalmente a quel punto stai a posto, sei fuori da tutto, da un tredicesimo, perché siccome sono sulle collaborazioni, tanto rimanevano possibili solo quelli a progetto, a parte pubblico impiego e pensionati. Poi anche i contributi aumentavano, forse arrivati al 29%, eccetera. Invece la partita IVA è magnifica. La partita IVA in realtà era pericolosissima per il lavoro, pericolosissima, perché non appena si riusciva a dimostrare che in realtà c'era non la subordinazione, che è una cosa difficile, ma c'era un rapporto coordinato e continuativo, e quello è facile dimostrarlo, tra il cosiddetto lavoratore che fa la partita IVA, ma che fa le fatture quasi tutte a uno, e che ci va tutti i giorni, un giorno 3 volte alla settimana, eccetera, eccetera, una volta trasformato in coordinato e continuativo, siccome non c'è il progetto, peraltro scatta l'articolo 69 e diventavi il migliore. Quindi, la partita IVA, che sembrava una grande invenzione per i furbacchioni, in realtà era una trappola a scatto se esaminata con mentalità, insomma. E adesso la grande novità qual è stata? Che hanno più o meno riproposto questo problema, però, e qui proprio c'è l'impronta digitale di Chino su questo, la individuazione della fattispecie viene fatta con dei criteri empirici, ossia laddove ci sia almeno l'85% del fatturato con una sola persona, il rapporto sia durato più di 8 mesi, oppure quello ci abbia uno schiaffozzino presso il committente, bastano 2 su 3, questa è una cosa, di queste situazioni per far presumere, salvo prova contraria, che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa e quindi poi ci possa essere la doppia trasformazione del doppio salario. Che è un modo veramente, non so neanche come definirlo, di affrontare la questione, certamente non appartiene alla tradizione classica romanistica, sarei sicuro. Anche perché è proprio un invito alla illusione. No? Io ho un amico commercialista che mi usa come sparring partner per i suoi imbrogli, cioè mi dice: se io faccio questo, tu che faresti? E io farei questo. E quindi basta, poi la gente. Appena ha visto questa cosa, mi dice: oh, ma è vero che adesso se faccio una. Diventano tutti subordinati? Dico sì. 85% del cielo. Dice: beh, e se io le fatture le faccio fare da due società diverse, collegate? Beh, dico, ti corro dietro pensando ai gruppi di impresa. È difficile, però ci provo. E se io una la faccio con un socio del Lussemburgo, con una fiduciaria, non lo trovi più? Ma hai fregato. Per dire, è facilissimo evadere questo tipo di normativa. E sarà così, sarà fatto. Dunque, dove sta il punto vero? Non sta in queste cose qui, sta prima. Quando parliamo del contratto a termine e del lavoro somministrato. Allora, quello che sono riusciti a ottenere, ed è peggio forse, non voglio dire mai così peggio il titolo 18, è che il primo contratto a termine è libero, senza causale, e dura un anno. Quindi per il primo anno uno può fare un contratto a termine. Ora vedete, qui c'è un problema, che è un problema di, diciamo proprio che riguarda l'economia del lavoro. Un nuovo assunto, anche di mansione operaia o impiegatizio d'ordine, diventa produttivo dopo il terzo o quarto mese, no? E quindi se c'è un'assunzione molto breve, può non essere conveniente fare il discorso delle leve successive, ma con un anno il discorso è un discorso fattibile, e noi avremo ora che tanta gente che sarà assunta liberamente a termine per un anno, ci potremo fare, ma c'è di peggio. Perché è vero che questo contratto non è un contratto ripetibile o prorogabile, ma nel frattempo anche la prima missione del lavoro somministrato è diventata anche quella libera, e in più, infatti, questa è già legge, al decreto legislativo 24 del 2012 abbiamo una lunga serie di soggetti cosiddetti svantaggiati ai quali può essere fatto sempre il rapporto di lavoro somministrato senza causale. Quindi voi vedete che in realtà tra questo e il collegato lavoro con la norma porca che ben conoscete di 60 giorni, praticamente il precariato dilagherà. Cioè non c'è nessun più sistema. È questo che mi lascia terribilmente preoccupato. E mi fa pensare che cosa noi potremmo e dovremmo fare. Allora, adesso io mi fermo qui, perché non voglio che parliamo, non voglio parlare solo io. Certo, questa è una legge che si presta abbastanza bene ai redditi non produttivi, perché essendo fatta per moduli, basta togliere dei pezzi, già ho fatto delle prove, e cambia completamente. Poi naturalmente noi siamo perfettamente in grado di capire quali sono gli snodi fondamentali che potrebbero portare a una revisione in un senso completamente diverso, in particolare sulla parte di licenziamenti, ma in particolare anche su questa linea. Allora si tratta un po', secondo me, di capire. Dobbiamo, almeno io lo farò, quello che è mio, spero così voi, dichiarare che abbiamo capito tutto, che non c'è argine che qui c'è qualcuno che si prende delle responsabilità enormi nel far passare questa legge. Secondo, che non siamo rassegnati, ma che sappiamo molto bene quali sono i punti, i nervi vitali di queste previsioni, che non vogliamo, che vogliamo che sia assolutamente cestinata la parte sugli ammortizzatori sociali, che va rivisto, tutta un'altra cosa, che vogliamo che la reintegra torni a essere la sanzione principe, e che si faccia una lotta razionale, che è una cosa facilissima da fare, se si vuole, all'abuso del precariato. E su questo io vorrei, personalmente, ho già fatto una scelta anche voi, vorrei che noi, come dire, prendessimo le posizioni, cioè di rompere con questo clima di rassegnazione che io personalmente comincio a sentire intorno a questa vicenda. Lo scambio con gli esodati è improponibile, non perché gli esodati non vadano salvati, perché il fatto con gli esodati si tratta semplicemente di scrivere una riga di quelli tradizionali, come si fa, se si è fatto già prima, non è un problema difficile, non è da mettere in scambio. Mi fermo qui, fatemi anche le domande che credete necessarie. Allora, io adesso darei la parola a Nicola Nicolosi, così almeno poi si può aprire il dibattito, segnalando che sta partecipando ai nostri lavori anche il segretario generale della Camera del Lavoro di Como, Alessandro Tartini. Prego, Nicola. Sì. Ma io non vi nascondo un certo disagio, perché generalmente mi piace intervenire e nell'intervenire difendere la mia organizzazione, nel senso che difendere la CGIL per me non è solo un esercizio dialettico, ma cerco di difendere la CGIL per la sua storia e il portato di questa grande organizzazione, e soprattutto perché considero che le lotte sociali senza la CGIL diventano difficili. Nanni sa benissimo, perché Nanni ha rappresentato per 40 anni il pensiero giuridico della CGIL. Lui non l'ha detto, ma nelle sue parole c'era anche questo rammarico che in una vicenda così importante come quella che ha cambiato, che sta cambiando da qui ai prossimi giorni con l'approvazione definitiva del disegno di legge Fornero sul mercato del lavoro e sul diritto a non essere licenziati senza giusta causa e giustificato motivo, beh, noi abbiamo speso molti anni della vita di questa organizzazione e in modo particolare di quel pool di giuslavoristi, di avvocati che sul lavoro hanno costruito un pensiero molto forte nel paese, e la CGIL è stato uno strumento importante per poterlo realizzare. Ora, quando si è cominciato a parlare dello statuto dei lavoratori, in Italia c'era uno scontro enorme tra chi voleva un sostegno e soprattutto entrare sotto l'ala protettiva degli americani, mi riferisco al 1949, e nell'arco di tutto il decennio successivo, quindi negli anni 50, in Italia si è costruito un sistema dove bastava avere la tessera della CGIL o del Partito Comunista in Italia per essere licenziati. E guarda caso l'idea di Di Vittorio e del gruppo dirigente della CGIL, sostenuto da un gruppo di avvocati e giuslavoristi attenti, sensibili, ha creato le condizioni perché si potesse cominciare finalmente a produrre un'idea, quindi una giurisprudenza del lavoro, che cominciasse a considerare il tema che non si potesse licenziare una persona per discriminazione, che non si potesse licenziare per tutta una serie di questioni e di fatti che Nanni ha cercato di ricordare. Ora, da questo punto di vista, anche qui noi siamo in presenza di perdita di memoria storica, ed è questo il mio rammarico, e lo dico da segretario nazionale della CGIL, ancora prima di coordinatore dell'ala sinistra della CGIL di lavoro società. Lo dico come segretario della CGIL perché ritengo che quello che è avvenuto da un punto di vista del giudizio positivo di quanto ha fatto purtroppo la Fornero con il suo disegno di legge mi porta ad avere non solo un punto di vista diverso, ma mi porta a fare un ragionamento di critica politica forte ed aspra. Voglio dire nella sostanza che per quanto mi riguarda e per quanto concerne anche tutti i compagni di lavoro società, noi non consideriamo questa partita conclusa con l'approvazione della legge, per essere chiari. Ma noi l'abbiamo già dichiarato esplicitamente durante un'assemblea a cui sia io che Nanni abbiamo già partecipato il 19 di maggio, determinando un segnale anche, se volete, ben preciso alla nostra organizzazione, che ribadisco essere la nostra organizzazione. E quando la nostra organizzazione sbaglia, noi dobbiamo essere i primi a dire che sta sbagliando. E su questa vicenda la CGIL sta sbagliando, almeno la maggioranza della CGIL sta sbagliando. E allora noi dobbiamo costruire le condizioni per capire che cosa sta succedendo, il perché di questa deriva. Ma se io penso alla nostra storia e al fatto che noi siamo usciti dagli anni 50 costruendo un percorso dentro gli anni 60 che porta poi fino allo Statuto dei Lavoratori nel 1970, e il dibattito che si è sviluppato nel Paese, un dibattito significativo, e mi riporta alla mente quando nel 1964 il governo di centrosinistra, per come si intendeva allora il centro-sinistra, non per come lo si intende oggi, quindi democristiani e socialisti, quando il governo Moro manda alle organizzazioni sociali una sorta di questionario per poter parlare esattamente dello statuto dei lavoratori e in modo particolare parlare del licenziamento senza giusta causa, parlare del ruolo delle commissioni interne e parlare delle libertà sindacali, di questi tre quesiti. E la CGIL, per quanto concerneva il tema dei licenziamenti senza giusta causa, pose subito e in maniera immediata, aiutata dal pool di avvocati giuslavoristi attorno alla rivista che ha guidato per molti anni Nanni. La sto ancora guidando, stanno per cacciarmi, ma però, ancora sono in serie. Però mi dicono dal palazzaccio L'altro giorno ho partecipato alla Cassazione ad un dibattito con avvocati e giuslavoristi che tu hai dato purtroppo una disponibilità a lasciare. Invece in questi casi la disponibilità non va data, qui ti faccio un rimprovero pubblico. Non avresti dovuto lasciare e consentire una battaglia politica anche su questo, perché io lo so come va a finire. Che Susanna Camusso poi propone a Scappelli di prendere il tuo posto a dirigere quella rivista, che è quello che assieme forse ad Angiolini stanno dando le indicazioni al segretario generale della CGIL anche sui temi che interessano il diritto del lavoro e la giurisprudenza del lavoro. Quindi da questo punto di vista la tua disponibilità è fuori luogo, non andava data, perché su quello noi potevamo fare e possiamo fare battaglia politica. Ma questo è un argomento che poi vedremo con Nanni successivamente. Mi interessa però un tema che in quella specifica situazione del 1964 la CGIL che cosa dice? Che quando c'è il licenziamento senza giustificato motivo ci deve essere la reintegra. La posizione della CISL nel 1964 era quella di dire, beh, ci possono essere le motivazioni di carattere economico e se c'è un indennizzo la cosa si può chiudere così. Guardate che assomiglia molto alla soluzione che si è trovata adesso. Ma questo richiama ancora un altro problema. Richiama la questione del rapporto tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica. E quindi richiama anche il ruolo del Partito Democratico. Detta con franchezza, il Partito Democratico non avrebbe mai potuto approvare una modifica dell'articolo 18 senza l'assenso o comunque senza il placet della CGIL. Questo lo dobbiamo sapere. E sta qui il dramma del dibattito anche interno al gruppo dirigente della CGIL. Perché molta parte del gruppo dirigente fa riferimento a quel partito. Ma siccome questo partito oramai non vuole più essere il partito che ha come riferimento la CGIL, ma vorrebbe avere forse un largo, diciamo, margine di rappresentanza, non dico dall'UGL alla CGIL, ma sicuramente mettendo CGIL e CISL e UIL assieme, come se tra queste organizzazioni sindacali non ci fossero differenze storiche, ideali, culturali, che segnano la differenza di queste organizzazioni sindacali. Come se ci fosse una sorta di progetto riformista e come se il tema dello scontro dentro la CGIL storico, che va dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, tra i pensieri diversi che ci sono tra una concezione sindacale riformista e una concezione sindacale invece classista, così come dentro la CGIL viene ad essere rappresentato questo livello di differenza. Ed è evidente che nella nostra storia abbiamo segnato una CGIL che è qualcosa di diverso rispetto alla storia sindacale della CISL o della UIL, proprio perché siamo un sindacato che ha una matrice più classista e dove nel rappresentare questo pensiero classista abbiamo saputo trovare una delle tre radici importanti della storia del movimento operaio, che è la rappresentanza sociale, assieme alla rappresentanza politica e assieme alla rappresentanza economica alternativa al modello di sviluppo capitalistico che è il movimento cooperativo, anche se in questa fase storica quel movimento è molto degenerato. E allora il problema è esattamente come noi costruiamo oggi, a fronte anche della situazione che ha determinato il Partito Democratico. E guardate, non sono insignificanti gli aspetti cronologici dei fatti. Il 19 di marzo si chiude la trattativa sul mercato del lavoro, nel senso che si arriva a definire in quella data la conclusione della possibile trattativa, peraltro senza firma, perché non siamo in presenza di una firma. Una trattativa durata due mesi, ma che arriva, peraltro arriva oggi con una raucigine incredibile. Gli effetti dell'aria condizionata con il caldo atroce mi ha beccato proprio nel momento sbagliato. Diciamo che il 19 di maggio si chiude la trattativa sul mercato del lavoro. Il 20 di marzo Fornero presenta le linee, ancora non c'è il disegno di legge, compreso l'articolo 18, oltre alle questioni che interessano il mercato del lavoro, che interessano anche gli altri aspetti degli ammortizzatori sociali. Il 21 di marzo c'è il direttivo nazionale della CGIL. In questo direttivo nazionale il sottoscritto con il segretario generale della FIOM Landini presentiamo un emendamento che l'articolo 18 non andava toccato, e in quel trambusto del direttivo, perché anche questa era una novità, la presentazione dell'emendamento a nome mio e a nome di Landini, che presento io a nome di tutte e due, alla fine il direttivo si chiude per trovare una sorta di serenità a dire: va bene, indiciamo 16 ore di sciopero contro il disegno di legge Fornero. In quella stessa data indiciamo 16 ore di sciopero. Il 22 di marzo, guardate la scansione, il 22 di marzo c'è l'incontro di Alfano, Bersani e Casini con Monti. Lì trovano la mediazione sull'articolo 18, che è quella mediazione che adesso si sta discutendo. Il 23 di marzo Monti presenta il disegno di legge. Il 4 aprile si pubblica il disegno di legge Fornero. Il 5 aprile c'è invece una segreteria con il mio giudizio negativo sul disegno di legge, la segreteria nazionale della CGIL dà un giudizio positivo dicendo: abbiamo salvato la reintegra, cosa che non mi vedeva d'accordo, e mi guadagno una lettera diffusa a tutti gli organismi della CGIL, a tutte le strutture della CGIL, che la mia dichiarazione stampa di contrarietà al disegno di legge presentato da Monti, il mio era stato un atteggiamento scorretto, perché mi ero espresso ancora prima della segreteria nazionale della CGIL, che diceva invece che dava un giudizio positivo. Da lì poi ci sono state una serie di iniziative e abbiamo dovuto gestire le 16 ore di sciopero, e si è costruito attorno a questa vicenda, li riprendiamo, attorno a questa vicenda una mobilitazione nel paese di un certo interesse, nel senso che abbiamo visto iniziative, manifestazioni di varia natura, territori che hanno scioperato, ovviamente come sempre ci sono strutture e territori che riescono ad organizzare le lotte meglio di altri, altri che fanno fatica, ma questo rientra dentro la normale storia delle organizzazioni sindacali. Qual è il problema vero? Il problema vero è che noi siamo in presenza, lo diceva Nanni agli inizi del suo intervento, prima ancora che entrasse nel merito delle diverse questioni che interessano i licenziamenti, le fattispecie di licenziamenti, e poi le questioni del mercato del lavoro. Lo diceva in maniera esplicita. Noi siamo in presenza dell'applicazione delle direttive che il Consiglio d'Europa ha emanato l'anno scorso e che la lettera della BCE è semplicemente l'atto pratico di una decisione assunta da un organismo politico importante che è il Consiglio d'Europa, che è il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, che sono quelli che decidono le politiche, tipo il Consiglio d'Europa che ci sarà il 28, e la strategia che questa importante istituzione europea assume l'anno scorso è il famoso patto Euro Plus e che poi avrà il Fiscal Compact, che è quello che dovrebbe essere approvato anche dal Parlamento italiano, deve essere recepito, dove ci sono scritte alcune cose precise che ci debbono essere per uscire dalla crisi determinata dai fallimenti del mercato e quindi anche dal fallimento della cultura neoliberista. Beh, guardate, anziché fare un passo indietro vanno all'attacco e cominciano a chiedere ancora privatizzazioni su larga scala. Ma guardate, è quello che ha in mente di fare il governo con tutti i provvedimenti che avete sentito nell'arco di questi giorni e che ci sono scritti sui giornali, non solo per quanto concerne i tagli alla pubblica amministrazione, che è uno dei temi previsti esattamente dal patto Euro Plus, che sono esattamente, dicevo prima, privatizzazione su larga scala, la riduzione del ruolo dei servizi pubblici locali, la riduzione del ruolo della contrattazione, quindi riformandola, facendo sparire il contratto nazionale, arrivare verso il contratto aziendale. Ma è semplice, su un tema del genere, per la CGIL che valore ha il contratto nazionale se non quello di unire i lavoratori e soprattutto determinare uno strumento anche per poter ragionare sul riscatto sociale delle classi subordinate? Il contratto nazionale nasce per questo, è il differenziale tra il nostro modo di pensare e il modo di pensare della CISL, sta esattamente in questo, ed è per questo motivo che la CISL è per i contratti aziendali e non per i contratti nazionali, perché non ha una funzione di riscatto delle classi subordinate, mentre invece questo obiettivo ce l'ha la CGIL come radice importante di quella storia importante del movimento operaio che noi spesso ci dimentichiamo. Ma ancora di più c'è tutta la questione della revisione delle norme sul mercato del lavoro, abbiamo appena sentito, e i temi della flessibilità in entrata ed in uscita, con la questione del rendere i licenziamenti più facili, oltre alla questione del sistema previdenziale che andava ritoccato ancora, per non parlare, sempre dentro questa strategia del patto Euro Plus, di attacco a tutto ciò che è pubblico, attacco a tutto ciò che è pubblico. Ora capite che questa strategia la stanno mettendo in atto, e la stanno mettendo in atto a partire da una situazione di emergenza economica, di emergenza sociale, che sta portando un partito come il Partito Democratico ad accettare esattamente tutte queste cose, mentre le mette in discussione da un punto di vista teorico, dicendo che è sbagliato, non si dovrebbe fare, ma che per la questione dell'emergenza, guarda caso, le stanno attivando. Voglio ricordare che la CGIL nell'arco di questi ultimi 3 anni e mezzo ha fatto 7 scioperi generali contro queste manovre che Berlusconi aveva in mente di portare avanti. Ed esattamente quello che si sta facendo adesso è tutto il programma della manovra di agosto dell'anno scorso. Noi abbiamo fatto lo sciopero generale il 6 di settembre contro quell'impostazione. Quindi noi siamo dentro un crinale politicamente da mettere in discussione. Ora Nanni, per quanto ci riguarda, rimane ancora un punto di riferimento giuridico per quanto riguarda pezzi della CGIL importante. Lo stesso ufficio giuridico è molto addolorato e dispiaciuto se Nanni dovesse lasciare questo suo incarico dentro la CGIL. Per quanto concerne la mia responsabilità, vale anche per il sottoscritto. Ma sicuramente noi una cosa possiamo dirla, l'abbiamo già detta in altra occasione, la ribadiamo anche quest'oggi qui. Con molta probabilità questo disegno di legge diventerà legge dello Stato. Non so se ce la faranno entro il 28 di giugno o entro il 10 di luglio, poco importa. Noi una cosa dobbiamo sapere, e questo sarà elemento anche di battaglia politica dentro la CGIL. Se questo disegno di legge diventa legge dello Stato, ben noi dalla CGIL alzeremo la voce per chiedere il referendum. Questo lo faremo senza il minimo di discussione. Ci saranno strappi, pazienza, pazienza. Ma io sono convinto che gli strappi, quando avvengono per questioni giuste, diventano salutari. Dentro la nostra organizzazione abbiamo bisogno di ricreare un clima, perché è molto sofferta la cosa, ma deve riguardare il corpo dirigente diffuso, in modo particolare i quadri militanti nei luoghi di lavoro, perché su questi temi io sono convinto che una battaglia di questa natura non è una battaglia di minoranza, ma è una battaglia di maggioranza. E allora noi dobbiamo avere il coraggio politico di farla questa battaglia. Questo è lo scenario in cui noi ci troviamo. E guardate, non è un problema per difendere postazioni politico-ideali dentro l'organizzazione, no. Abbiamo parlato di cultura giuridica, e siccome è un ritorno indietro di 50 anni, non di 40 anni, perché non è un ritorno indietro al 1970, è un ritorno indietro a prima del 1964, di quando Moro lanciava la possibilità di discutere queste cose. Ma guardate, ci riporta indietro a quando Di Vittorio, assieme ad altri dirigenti della nostra organizzazione, aveva individuato nello statuto dei lavoratori da fare, perché ancora non c'era, e lui povero non è riuscito a vedere questa sua intuizione politica dello statuto dei lavoratori. Adesso ce lo stanno modificando dentro una condizione dove si dice i rapporti di forza oggi non ci sono favorevoli. No, non può essere così, perché licenziare una persona senza giustificato motivo ci metteva nella condizione di lanciare un messaggio a tutti, non solo ai lavoratori dipendenti, ma riguardava anche altri cittadini che non hanno magari la condizione del lavoro subordinato, ma che a fronte di un elemento di ingiustizia si possa determinare il fatto che la coscienza si ribella. Ma in più c'è un'altra questione. Ovviamente ci sarà pendente attorno a questa vicenda non solo il referendum, ma anche ricorsi di incostituzionalità sul tema. E guardate, se venisse fuori che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale questo passaggio, che un lavoratore licenziato in maniera ingiusta viene pagato con un indennizzo economico e sbolognato, per essere molto chiari, e che dice che questo fatto è una situazione da non fare perché contro i principi nella nostra Costituzione, beh, guardate, il nostro gruppo dirigente della CGIL non solo non ci fa bella figura, ma si porrebbe un problema molto grave dentro l'organizzazione, e questo ovviamente per me non è un fatto positivo, è un fatto che mi riempie enormemente di dispiacere e di dolore. Per questo che noi avremmo dovuto avere un atteggiamento libero, autonomo dalle volontà che poteva sviluppare un partito come il Partito Democratico. Partito Democratico, se doveva sbagliare, sbagliava da solo, non doveva sbagliare con il nostro assenso, perché lo ribadisco, senza il parere favorevole e senza il giudizio positivo della CGIL, beh, quel partito avrebbe avuto seri problemi al suo interno, e le diverse anime dentro il Partito Democratico si sarebbero contrastate, avrebbero avuto i loro conflitti, ma se li tenevano a casa loro. Invece noi abbiamo preso quei conflitti, quei contrasti, e ce li siamo portati in casa CGIL. Beh, guardate, noi avevamo fatto benissimo nell'arco di questi anni, avevamo ottenuto la situazione in mano da un punto di vista sociale, da un punto di vista politico, eravamo un punto di riferimento del paese, mentre c'è la crisi della rappresentanza politica, noi eravamo un punto chiaro di riferimento. Beh, questa vicenda ci ha accomunato e ci ha messo al pari anche di altre organizzazioni che hanno la responsabilità di aver sostenuto il governo Berlusconi nell'arco di questi 4 anni. Quindi per questo che io lo dico con rammarico, lo dico con dispiacere, e siccome questa comunque sia è la mia organizzazione, io la devo difendere anche da me, nel senso che noi dobbiamo costruire le condizioni per difendere questa organizzazione anche da possibili e potenziali errori che ciascuno di noi può fare. Questo è lo scenario in cui noi ci troviamo. Dopodiché, dentro il direttivo nazionale della CGIL, una cosa siamo riusciti a fare nel direttivo di ieri che non la ridiscuteva già scelte già fatte nei direttivi precedenti, che noi nell'arco di questi ultimi 3 mesi abbiamo fatto più direttivi e abbiamo discusso e ci siamo anche divisi sulle questioni che Nanni ci rappresentava. Ieri siamo riusciti a fare un'operazione innanzitutto di far esprimere un giudizio critico, un giudizio diverso rispetto a quello che era venuto nei giorni passati. Ieri abbiamo cominciato a dire innanzitutto che la riforma delle pensioni l'abbiamo definita controriforma, iniqua e inaccettabile, giudizio che non è stato mai così netto, e abbiamo cominciato a parlare della riforma del lavoro non considerando luci ed ombre, ma considerando la riforma del mercato del lavoro con il carattere punitivo e di totale inadeguatezza rispetto ai problemi che oggi ha il mondo del lavoro in Italia, e che quindi la riforma del mercato del lavoro toglie la strumentazione sindacale per la gestione delle crisi aziendali. Quindi un giudizio più critico, un giudizio che ci mette nella condizione di dire che comunque sia qualcosa da un punto di vista dell'analisi si sta mettendo in discussione. Peraltro, se ben ricordo, quando c'è stata l'audizione al Senato, la CGIL aveva presentato al Senato una memoria di totale contrasto rispetto al disegno di legge Fornero, e avevamo chiesto anche sull'articolo 18 che quel può sulla reintegra come potere da assegnare al giudice si trasformasse in deve, ad esempio. cosa che purtroppo l'abbiamo lasciata alla memoria consegnata al Senato e non è diventata invece una pratica su cui fare battaglia politica, ahimè, grazie a quella mediazione fatta da Alfano, Bersani e Casini con Monti. Quindi ci sono degli errori politici, lo dico in maniera franca, non è un atteggiamento di chi non si vuole assumere le proprie responsabilità, anzi io sono per assumermi sempre le responsabilità, ma siccome su questa vicenda il sottoscritto ha fatto una battaglia politica dentro la segreteria, dentro il direttivo, fuori il nostro, diciamo, ambiente CGL, nel rapporto con la stampa, scrivendo articoli, prendendo prese di posizione, beh, io credo che su questa vicenda noi dobbiamo avere il coraggio politico di continuare questa discussione in tutti gli ambiti dell'organizzazione. E non ci sono posizioni legittime e posizioni illegittime. Su una vicenda di questa natura c'è una posizione dialettica e la posizione dialettica si deve mantenere viva fino a che noi non realizziamo le condizioni necessarie per cambiare quello che è avvenuto. Ed è per questo che l'idea del referendum, e noi ci spenderemo fin da subito, abbiamo detto che parteciperemo ai comitati di difesa dell'articolo 18 e lavoreremo dentro i comitati per il referendum, per raccogliere le firme e per fare battaglia politica su queste cose. Quindi credo che da questo punto di vista la nostra posizione già annunciata, già dichiarata, non è una novità, almeno per chi ha seguito i lavori nei giorni scorsi, ma è importante poterla diffondere in tutti gli ambiti, non solo dell'organizzazione ma del paese, perché noi dobbiamo mobilitare un paese attorno a questa vicenda. Guardate che la questione del licenziamento senza giusta causa, poi ci sono anche tutte le altre partite del mercato del lavoro, ma mentre una norma del mercato del lavoro può trovare sempre una sua sistemazione attraverso magari un'altra legge, attraverso un altro tipo di intervento sempre legislativo, beh, sui temi che interessano i processi e la giurisprudenza del lavoro io credo che generalmente ci vogliono 30-40 anni prima di cambiare le cose che si affermano, perché non sono di soluzione sempre facile. Certo che noi dobbiamo costruire quel movimento necessario per poterle cambiare. Per questo che io dico e concludo, noi teniamoci pronti, non più tardi di quando sarà approvata la norma, noi dobbiamo saper partire e fare tutto il prossimo autunno, non so, da settembre fino alla fine dell'anno, per mettere in moto nel paese un movimento che su questi temi debba poter recuperare di nuovo quella sanità giuridica che era stata la grande conquista dello Statuto dei lavoratori del 1970. Non si demorde, si va avanti nella lotta e dobbiamo cercare di fare in modo che dentro la nostra organizzazione anche chi sostiene questo pensiero non si deve sentire fuori dalla CGN, non si deve sentire fuori casa, si deve sentire invece a casa propria per poter difendere non solo un istituto per i cittadini, ma per difendere in questo caso anche la stessa CGL dagli errori che a volte il gruppo dirigente può commettere. Grazie. Ringrazio sia l'intervento del professor Allena, che poi ci dovrà salutare nel corso del dibattito, e l'intervento dei Colosi. Io aprirei subito la discussione e il dibattito facendo semplicemente una sottolineatura. È importante il riferimento che tutti e due nei loro interventi hanno fatto anche sulla situazione del pubblico impiego, sia sul precariato che soprattutto sulla scure che si sta per abbattere per l'ennesima volta sul pubblico impiego. Questa rischia di essere la scure definitiva, perché stiamo sentendo delle cose che sono veramente aberranti. Di qua c'è l'attacco ormai definitivo allo Stato sociale che conosciamo, di conseguenza non ci sarà non solo da attrezzarsi, perché siamo già pronti ormai da anni, ma veramente da mobilitarsi, perché qua c'è un disegno politico e gli interventi ce l'hanno fatto capire benissimo, partendo dai tre punti della riforma del mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita e in entrata, e attacco al pubblico impiego, che compongono il quadro, che è un quadro di natura, diciamo, greca, per intenderci, perché poi la linea politica della BCE e delle direttive europee che ci sta toccando tutti è di questo tipo. Io invito tutti quelli che interverranno a cercare di contenere i loro interventi per dare la possibilità a tutti di parlare. Do la parola a Nicola Casale, poi si è prenotato Donato Supino. Guardate, è difficile aggiungere qualche cosa per chiarire la questione e dell'articolo 18 e della riforma del mercato del lavoro per come è stata spiegata da Alela. C'è però un punto o una domanda, partiamo da una domanda, ecco, perché anche il professor Alela, come devo dire tanti oggi in Italia, dicono o credono che queste manovre vengano fatte dai Monti, dai Fornero, perché in fondo sono eterodiretti, comandati dalla BCE, dall'Unione Europea, dai vari piani, come diceva anche Nicolosi, e che per questo ci mettono anche parecchio del loro dilettantismo, della loro incapacità e qualche volta un po' di ideologia. Io non credo che sia così e vorrei sottolineare questo aspetto. Io credo che Monti e la Fornero vadano... No, non era un tranello, è una discussione... Lo stavo dicendo, prima di assentire a Nicola, prima senti tutta la domanda e poi... Vediamo se l'assenso, che l'assenso è arrivato sulla domanda e non è scontato. Vediamo anche se c'è un assenso sulla risposta. Io credo che Monti vada preso molto sul serio, Fornero vada preso più serio che di Monti. E allora loro hanno detto che queste riforme che stanno facendo insieme, mercato del lavoro, spending review, hanno un obiettivo preciso. L'obiettivo preciso è quello di predisporre dei meccanismi per uscire dalla crisi. C'è poco da credere, lo dicono. E se lo dicono, lo stanno facendo. In che modo lo stanno facendo? Cercherò di dirlo in un modo abbastanza veloce. Monti dice: qual è il problema che abbiamo in Italia, oltre al debito pubblico e compagnia cantante? Il problema che abbiamo in Italia è che nessuno è più disponibile ad investire. Allora, per rilanciare le prospettive di questo grande paese, dobbiamo ricreare, sono parole di Monti, l'ambiente favorevole agli investimenti. Vi ricordate qualche mese fa è andato in Cina a dire: guardate, in Italia stiamo facendo la riforma del lavoro, venite ad investire in Italia. E hanno risposto: stai scherzando, non ci pensiamo in quel momento. Tuttavia il suo obiettivo è evidente e chiaro, ed è un ragionamento che non fa soltanto Monti, è un ragionamento che in questo momento stanno facendo dappertutto. Io l'ho detto già in un'altra occasione, lo devo ripetere, perché in Italia c'è una cosa curiosissima. Pare che la Germania ci opprime e la Merkel voglia a tutti i costi umiliarci, perché ci vuole far fare queste riforme del mercato del lavoro, ci vuole far mettere in pareggio i debiti pubblici e compagnia cantante. Bene, vorrei ricordare che il primo meccanismo al quale oggi Monti si collega per uscire dalla crisi è il famoso patto fatto dal compagno Obama e da Marchionne, non so come definire Marchionne, quando gli regalò la Chrysler ad una condizione: che patteggiamo, togliamo i diritti sindacali, assumiamo un nuovo personale senza diritti sindacali e a metà del salario. La Chrysler si era rilanciata perché ha assunto personale che ne paga la metà. E una delle condizioni poste da Obama e realizzata, cioè sapete che c'è? Dato che i salari riusciamo ad abbassare così tanto, vedete pure di riportare in America una parte di produzioni che si stanno facendo oggi in Messico e in Cina. In Cina. Perché? Perché è la logica. Come si esce dalla crisi? Creando le condizioni favorevoli all'investimento. Quali sono le condizioni più favorevoli all'investimento? Il massacro dei diritti sindacali, il dimezzamento dei salari, la trasformazione dei lavoratori in schiavi, possibilmente ebeti e zitti. E qui viene una seconda domanda, perché qui dice, ma Monti lo dice, ma Monti lo dice, lo fa. Perché una volta tolto di mezzo l'articolo 18, io aggiungo un'ulteriore domanda. Ma davvero pensate che sarà facile riconquistarselo con la lotta? Una volta tolto l'articolo 18, ma veramente vi immaginate che fare sciopero sarà facile? Oggi non è più facile. Ma diventerà ancora più difficile di quello che è oggi, perché viene messa nelle mani dell'imprenditore, anche più onesto e più umano, la possibilità di disfarsi facilmente di chi rompe, e quello che rompe di più è chi fa sciopero. Allora, ricordiamocela questa cosa, perché sento questi ragionamenti nella CGL, l'ho sentito anche nella CGL che vogliamo, dobbiamo incassare, ce lo stanno modificando, ma poi riprenderemo. Ma che cosa riprendere? In quali condizioni? Secondo punto. Dice Monti, c'è un altro modo per uscire dalla crisi. Creare l'ambiente favorevole alle aziende, fare la spending review. Non aggiungo molto, perché si è già capito che la spending review di Monti non è il risparmio, è il taglio al pubblico impiego. Ed il taglio, guardate, stiamo ancora ad un passaggio intermedio, perché qui la linea la metta sempre Draghi, che disse qualche settimana fa, l'Europa va cambiata. Che cazzo è sto fatto, scuola pubblica, sanità pubblica, va cambiato tutto questo. Allora, attenzione, senza articolo 18 e senza la possibilità di fare sciopero, ma come ce la difendiamo la sanità pubblica? Con il referendum? Lo so che la domanda può sembrare un po' provocatoria, ma attenzione, non abbiamo di fronte, perché sembra, un dilettante, abbiamo di fronte un progetto politico che non è stato ideato da Monti, probabilmente non è capace, ma il progetto c'è. Ed il progetto, guardate, scusate, apro questa parentesi, la chiudo subito. 10 giorni fa in provincia di Milano, Bassiano, c'è stato un episodio che credo sia stato sottovalutato da molti di noi. Alcuni lavoratori sono stati licenziati da una cooperativa perché l'appalto è stato dato ad una cooperativa che aveva offerto 3 euro all'ora. I licenziati venivano pagati 9 euro all'ora. I licenziati hanno provato a fare una dimostrazione, sono stati trattati con la consueta gentilezza dalle forze dell'ordine. Lì ci sono stati 2 segnali. Il primo, che ci sembra lontanissimo ma si sta avvicinando, la concorrenza tra i lavoratori. Volete un lavoro, vi dovete svendere. Non basta che vi svendete, vi dovete massacrare tra di voi. Non siete contenti. La carezza dello Stato arriva. Seconda, terza domanda. Io qui sono un po' più considerare domande. Io farò le considero domande. Io mi faccio le domande, vi propongo le domande. Sì, almeno chiariamo che non sono domande. Do le mie risposte. La CGL. Io non ci giro molto intorno. Io dico la CGL sta abbandonando la difesa dell'articolo 18. Non la sta facendo. Sta lasciando che l'articolo 18. E per di più aggiungo una seconda cosa, andare sugli esodati, perché è vero, sono d'accordo con lei, gli esodati sono un problema serio, ma lo stanno ingigantendo e ci stanno facendo, certe volte sembra una pantomima, perché tra di loro pare che si scannerebbero per gli esodati. Ma mentre si scannano per gli esodati, stanno zitti sulle pensioni, stanno zitti sull'articolo 18, non se ne parla più, ma gli esodati, problema meritevole, è diventata una arma di distrazione di massa, malgrado loro e purtroppo per loro. Ora, come recuperiamo? La CGIL sta abbandonando, io dico sarà difficile recuperare. E attenzione, anche sul referendum, va bene, facciamo il referendum, ma il referendum, quando c'è una situazione di sfiducia tra i lavoratori, lo sappiamo perché è già successo, si perdono, è già successo anche sulla scala, e poi dirò, secondo me quello che serve. Ma la domanda è questa, perché la CGIL sta abbandonando la difesa dell'articolo 18? Sì, anche perché il PD sta influenzando la CGIL, ma non credo che sia soltanto questa domanda, non credo. Io ricordo, e voi ricordate, come nel 92 successe una cosa analoga, identica. Anche allora l'Italia stava fallendo, anche allora la lira sembrava sul punto di saltare, la situazione economica di esplodere. Anche allora Trentin, per salvare il paese, rinunciò alla Scaramoglia. È già successo. Io dico, oggi Camusso, la maggioranza della CGIL stanno abbandonando la difesa dell'articolo 18 perché hanno paura che viceversa, sostenendolo, creerebbero maggiore difficoltà al paese. E poi forse perché, e qui ci mettono forze, ma forse perché in fondo cominciano a credere anche loro che creare un ambiente più favorevole agli investimenti possa essere utile. E qui vengo al mio ultimo punto. Si fanno un'illusione se lo pensano nella CGIL, si fa un'illusione se lo pensa anche Monti, non so se Monti lo pensa davvero, perché veniamo all'altro punto. Secondo quello che dice Monti, uno si dovrebbe immaginare che ci sono nel mondo decine di migliaia di possessori di capitali che non vedono l'ora che in Italia viene tolto l'articolo 18 per rilanciare gli investimenti. Attenzione, oggi in questo momento in tutta Europa ci sono tre paesi che stanno facendo la riforma del mercato del lavoro: Grecia, Spagna e Portogallo, che hanno caratteristiche identiche a quelle che si sta facendo in Italia. Hanno scopi identici, quello di creare ambiente favorevole alle imprese multinazionali mondiali che dovrebbero trovare conveniente investire in Portogallo, in Grecia, in Spagna, in Italia, piuttosto che in Cina, perché qualche problema da finire ce l'hanno solo con la Cina. Quello che si prepara non è una situazione migliore, è una situazione basiana, cioè una concorrenza micidiale a chi abbassa di più i propri diritti, a chi abbassa di più i propri salari, perché attenzione, è facile pensare, ma rimane la legge, tolto di mezzo l'articolo 18, a catena si trascina dietro anche il contratto. Può anche rimanere nella legge il contratto, ma può essere facilmente svuotato dall'interno senza l'articolo 18. E vengo all'ultima cosa, guardate, perché questa è alla fine quella che dovrebbe vederci impegnati di più. Io non credo che il referendum ci possa salvare. Non lo credo perché questa vicenda, proprio perché all'inizio c'è stata anche una reattività dei lavoratori, se si concluderà in questo modo, cioè che la riforma sull'articolo 18 passa e la CGIL non fa nulla per contrastarla, produrrà ulteriore sfiducia e sarà ancora più difficile subito dopo. E qui c'è una sola cosa che possiamo, se vogliamo, fare, ed è esattamente quella di fare il possibile per rilanciare tutte le iniziative e le mobilitazioni possibili. Guardate, una discussione alla CGIL è normale e giusto che ci sia, ma in questo momento farsi condizionare solo dai rapporti interni alla CGIL significa introdurre ulteriori elementi di sfiducia da cui sarà difficile risalire. O riusciamo oggi a riprendere un'iniziativa, una denuncia, guardate, anche una battaglia per lo sciopero generale, anche se pare che ormai lo abbiano anche tolto come nome. Lo sciopero generale in sé non risolve, tuttavia dà un segnale di mobilitazione che sarebbe indispensabile tenere in questo momento. Non ci sarà lo sciopero generale? Bene, io credo che ci sia una sorta di obbligo. Se davvero crediamo che quello che stanno facendo non è una modifica di dettaglio di qualche aspetto di leggi, sia pure importanti, ma stanno iniziando un percorso alla cui conclusione c'è una completa destrutturazione di ogni diritto per i lavoratori di difendersi, allora non basta aspettare il dibattito interno della CGIL, bisogna darsi da fare, bisogna coordinarne le forze che sono d'accordo, bisogna organizzarle e non dare, diciamo così, tregua, ma fare una battaglia permanente. Ma io credo che rispetto alle cose che sono state dette fino a qui, secondo me non si sottopone come analisi una cosa importantissima, che è sul rispetto alle cose dette del passato. Oggi abbiamo un attacco al mondo del lavoro e ai diritti dei lavoratori, non più solamente dalle imprese, dal capitale di imprese, ma abbiamo un attacco fortissimo che viene dalla finanza. Cioè io credo che insieme a questa cosa dobbiamo valutarla bene, perché se no la risposta non è sufficiente rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. Noi abbiamo di fronte dove c'è un attacco sui diritti, c'è un attacco sul punto di vista del potere d'acquisto, in termini poveri per capirci, del potere d'acquisto dei lavoratori, dei cittadini nel suo complesso, perché dobbiamo allargare su questo, se no non si capisce perché non è stata fatta la patrimoniale e perché si è messa l'IMU sulla prima casa e quant'altro. Allora io credo che su questo va fatta una riflessione un po' più ampia per dare una risposta più complessiva, se la CGIL si deve mobilitare, o perlomeno il mondo del lavoro si deve mobilitare rispetto a questo. Il compagno, il professore, che non ricordo il nome, ha fatto una bella radiografia della situazione, della malattia che abbiamo di fronte, di questo governo che ci ha proposto sulla questione degli ammortizzatori sociali. Ecco, qui posso dire che non sono tanto ottimista rispetto al fatto 2016, piuttosto che oggi va bene al 2016, che entrano in vigore il 2016, però non è che sia tanto ottimista. Se non mettiamo in campo alcune cose che ha già detto Nicola, ma secondo me queste sono importantissime, ma vanno supportate anche da altre iniziative. Allora, sugli ammortizzatori sociali spariranno le casse integrazioni ordinarie e straordinarie in deroga, saranno fatte solamente la mobilità per un anno, sono fatte comunque sulle assunzioni non sono sparite, non sono state cancellate la legge 30, le partite IVA eccetera, cioè esatto, l'articolo 18 è stato svuotato. Gli esodati, bruttissimo nome, la mobilità e accompagnamento alla pensione, sono stati veramente trattati come dei fannulloni. In sostanza, l'abbassamento del potere d'acquisto dei lavoratori. Allora, noi tutti di fronte a questa situazione, che visto che siamo qui, è un'iniziativa fatta soprattutto della funzione pubblica, non solo di lavoro e società, ma io credo che la diagnosi del nostro radiologo è importantissima per poi dare la risposta. Però non ci dobbiamo comportare come dei dottori di base, qui ci vuole uno specialista. Cioè in sostanza, se noi non ci attrezziamo a veramente dare di contraccolpi a questi attacchi che stiamo subendo su tutto il fronte, perché adesso stiamo parlando solo del lavoro, voglio solamente accennare l'IMU apposta alla patrimoniale per farvi capire che il ragionamento non sta solamente lì, perché noi non lo difendiamo il nostro potere d'acquisto solamente, voglio dire, le questioni delle pensioni, le pensioni sono state toccate, sono state sterilizzate, i pensionati vanno, i lavoratori che devono andare in pensione gli è stato allungato il lavoro. In sostanza non possiamo agire come abbiamo fatto fino adesso, quella è stata dichiarazione di sciopero generale, 4 ore, poi dopodiché sia Coda, CISL e UIL, alla fine troviamo la mediazione, loro proponevano due, noi ne proponiamo quattro, facciamo tre, la classica mediazione veramente che ci ha fatto un po' sorridere a tutti. In sostanza io credo che noi dobbiamo dire, ma siamo veramente pronti a fare una battaglia di questa natura e questa deve essere una battaglia che deve durare nel tempo affinché non si raggiungano alcuni obiettivi, e che hanno tempo affinché non si raggiungano alcuni obiettivi. Le cose che dicevi tu Nicola sulla questione del referendum, certamente dovremmo partire subito a settembre perché questa legge la faranno, ormai non fate l'accordo, e in sostanza dobbiamo riprendere tutto quello che è la questione del potere d'acquisto dei cittadini che abbiamo perso, perché qui non è che poi sono andati solo all'impresa, sono andati anche alla finanza. Noi in questo paese quello che sta dominando è la questione finanziaria. Le imprese poi si attrezzano, portano all'estero le aziende per abbassare il prezzo e qui la guerra che c'è tra i lavoratori. Allora io credo che la questione del referendum e la questione del sciopero generale, anch'io sono convinto che non è sufficiente mettere in campo. Noi dobbiamo mobilitarci in una maniera più generale, più vasta la situazione. Io credo che su questo punto di vista le cose che ha detto Nicola io le condivido, ma vanno anche rafforzate sotto l'aspetto. Io credo che noi siamo partiti dal, per chi si ricorda, le battaglie che abbiamo fatto anche sulla scala mobile, per chi si ricorda. Noi lì avevamo attrezzato qualcosa, pur essendo dirigente della CGIL, tutti, pur essendo dirigente della CGIL, avevamo messo in piedi gli autoconvocati. E gli autoconvocati non avevano tutti questi lacci e lacciuoli, pur io dirigente della CGIL, lacci e lacciuoli dei vari organismi, eccetera. Io credo che qualcosa abbiamo spostato in quel momento lì. Io so benissimo che oggi il vento non è a nostro favore. Ma se continuiamo a rassegnarci e non sogniamo più, io credo che in questo paese, al di là dei giovani, io posso anche non sognare che ho 60 anni, ma ci sono i giovani veramente che non ci provano neanche a sognare, perché non gli si dà la possibilità di sognare. Io credo, noi abbiamo il compito, abbiamo il dovere di far sognare le nuove generazioni, e non può essere la precarietà, non può essere una situazione difficile che non si possono sposare, non possono trovare casa e quant'altro. Allora da questo punto di vista dobbiamo dire che lottiamo per la difesa dell'oggi, ma per creare una prospettiva per il futuro. Nicola, io sono d'accordo se partiamo con queste cose, però non sono sufficienti. Io credo dobbiamo mettere in piedi una serie, abbiamo l'informazione, oggi non è più quella degli anni 80, tanto per intenderci, ma noi non possiamo fare solamente la battaglia e dobbiamo partire con la questione del referendum. Non possiamo limitarci a fare una battaglia interna a CGL. Io guardate, vi dico questo: quando un anno e mezzo fa purtroppo è andato via Tarpini, quando Tarpini fece la dichiarazione sulla provincia, il giornale locale, dove ha detto si può anche ragionare e rivedere l'articolo 18, io mi aspettavo all'interno della nostra CGL una reazione un po' più dura sotto questo aspetto. E allora da questo punto di vista io invito a tutti, a me stesso, di creare quell'unità della sinistra della CGL che oggi ancora tuttora non riusciamo a mettere in piedi di fronte a questi attacchi forti. Dobbiamo liberarci di quelli che sono i personalismi e dobbiamo creare un fronte veramente unificato con una piattaforma più ampia di quelle che sono state presentate qui, che si rivolge anche all'esterno del mondo del lavoro e della fabbrica. Dario Fappostori, che è segretario della FIOM di Como e coordinatore del CGIL Togliamo. Scusa Dario, prima di lasciarti la parola, visto che il professor Leva ci deve salutare, io lo ringrazio nuovamente. Mi dispiace perché il dibattito era interessantissimo, purtroppo ho una notte di viaggio davanti a me. E carissimo, se ci sentiamo, penso una cosa, che dobbiamo ricominciare da noi, come si dice una volta, cioè, dobbiamo ricominciare da noi altri che siamo della CGL e non siamo la minoranza nella CGL, a pensarla così. Io intanto ringrazio dell'invito e dico subito che noi abbiamo bisogno di questi momenti di discussione come il pane, il pane magari per ingrassare, abbiamo bisogno di questi momenti di discussione come il pane, soprattutto in un territorio come il nostro, che credo che sia dal punto di vista politico e sindacale rappresenta una serie di problemi anche dal punto di vista del dibattito e anche rispetto al dibattito che c'è all'interno della CGIL. Quindi credo che sia molto importante questa iniziativa e sono anche d'accordo con i contributi che sono usciti qui per cercare di fare una discussione che non sia una discussione in cui ognuno metta, io non sono interessato a mettere le bandierine rispetto alle proprie posizioni e quant'altro. Mi pare che il quadro che è stato qui descritto benissimo dall'avvocato è un quadro che ci dice che siamo di fronte a una destrutturazione completa di quelli che sono i diritti del lavoro. Qui non siamo, secondo me, anche se sono stati fatti dei riferimenti ad altre battaglie, la scala mobile, eccetera, poi si possono avere pareri diversi, si può dire che tutto è cominciato da lì o meno, però mi pare che allora, tutto sommato, pur avendo delle politiche economiche e sociali sbagliate, moderate, liberiste, di destra, quello che si vuole, però si manteneva in piedi un certo tipo di struttura del diritto, i capisaldi c'erano ancora. Oggi non è questa la situazione e credo anch'io che dobbiamo anche fare una critica a noi stessi all'interno anche della nostra organizzazione, perché non possiamo solo pensare che il problema sia quello di mantenere aperto all'interno della CGIL un dibattito, un confronto, una posizione critica verso quelle che oggi sembrano essere posizioni di maggioranza, perché intanto la cosa ci sta crollando addosso. Qui hanno già detto altri, sarà molto difficile poi riprendere, ma un elemento che secondo me credo che deve essere segnalato è soprattutto anche quello che ci viene dai lavoratori, quelli che più generosamente in questi anni hanno partecipato alle iniziative di sciopero, sono stati con noi, hanno perso salario per fare la battaglia. La cosa che io rilevo nelle fabbriche, girando un po' nelle fabbriche, la cosa, se volete, meno più carina è che la CGIL su questa questione del mercato del lavoro sta forse facendo una difesa d'ufficio e non di più, cioè sta solo dicendo che è contraria ma non ha messo in campo niente rispetto a questo, e l'aver dichiarato 16 ore di sciopero aspettando che lo sciopero generale doveva essere uno sciopero generale in contemporanea con la discussione parlamentare, abbiamo visto invece che a questo punto ad oggi lo sciopero generale non viene proclamato, non so quando verrà proclamato, anzi da quello che mi sembra di aver capito che viene in qualche modo rinviato a fronte di un'iniziativa unitaria da fare nell'autunno e quant'altro su altri temi. Ora io credo che questa questione del mercato del lavoro sia una questione che hanno già detto altri e a tutti quei canovacci che sono stati detti, quelle questioni che sono state dette. Io aggiungo solo questo. Sull'articolo 18 non è solo una questione relativa al licenziamento, quindi alla tutela del lavoratore che viene licenziato, ma è il caposaldo che rende possibile gli altri diritti e quindi i diritti di carattere sindacale. Aggiungerei anche un'altra cosa, vuol dire anche però che il punto di vista dell'impresa che si afferma non viene assolutamente contrastato. È vero che l'azienda si organizza come diavolo vuole, però non è detto che c'è sempre una sola soluzione. Oggi con questo meccanismo si impone il fatto che quello che decide l'impresa non può essere contrastato. Ha deciso l'impresa, è l'impresa che ha ragione e non ci può, quindi viene anche meno un discorso, diciamo così, di possibilità di contrattazione. Quindi la contrattazione, così come l'abbiamo conosciuta, l'iniziativa sindacale, così come l'abbiamo conosciuta, diventerà sempre molto più difficile. E noi rischiamo molto nel rapporto con i lavoratori, rischiamo molto perché ci vedono come quelli che, io non vado a dire che il problema è PD, magari il problema sarà anche il PD, ma se io vado in un'azienda e gli dico che non abbiamo fatto lo sciopero, non abbiamo contrastato questa roba qui perché siamo condizionati dal PD, mi tirano un calcio in culo e mi vanno via. Io credo che c'è un problema anche di linea politica della CGIL, poi se è condizionato o non è condizionato, io credo che ci sia un problema della linea politica della CGIL, e questo del mercato del lavoro e dell'articolo 18 è l'elemento che chiude il cerchio. Io vorrei ricordare che non abbiamo fatto, se non con le triodi sciopero che citava prima Supino, nessun tipo di contrasto sulla questione delle pensioni, che giustamente è importante la questione dei soldati, ma non è solo la questione dei soldati. I lavoratori ci chiedono ancora, ma è aperta la questione delle pensioni, cosa facciamo contro quella che noi abbiamo giudicato la controriforma peggiore di tutta l'Europa? Non possiamo dare un'analisi così di questo tipo, che è vera, che è giusta, e però nel frattempo non mettere in campo le iniziative anche coerenti con quello. E mi pare anche a me, francamente, insufficiente pensare che questa roba qui la possiamo gestire con un posizionamento all'interno del dibattito della CGIL, perché quando la casa crolla non è che è sufficiente che noi ci posizioniamo in attesa di tempi migliori. Si dice spesso che i tempi sono cambiati, si fa riferimento quando abbiamo portato i famosi 3 milioni nel 2002 sempre sull'articolo 18. Però io vorrei ricordare a Roma che la roba è cominciata prima. Intanto vorrei ricordare che qualche giorno prima c'era stato l'attentato terroristico e giustamente la CGIL, non solo per una ragione organizzativa che non poteva fermarsi, chiaramente ha continuato a fare la manifestazione. Non so se oggi farebbero lo stesso ragionamento. Ma era cominciata prima col fatto che non abbiamo sottoscritto il patto per l'Italia e col fatto che addirittura avevamo contestato, avevamo criticato l'accordo separato che c'era stato sui contratti a termine. Oggi, di fronte a quello che c'è adesso, sembra che stiamo parlando, non dico di quisquilie, però di cose veramente che oggi sono molto più in là. Eppure lì la CGIL si è mossa fin dall'inizio costruendo un percorso. Voglio dire anche che assieme alle questioni che sono emerse qui, vorrei ricordare che c'è anche un altro elemento, perché anche su quello non abbiamo detto che c'è un elemento di non costituzionalità, che è l'articolo 8 che ha fatto il governo Berlusconi ad agosto nel famoso intervento della finanziaria, dove di fatto si paragona i contratti aziendali ai contratti nazionali e un'azienda può decidere di non applicare il contratto nazionale per il contratto aziendale. C'è già questa legge qui e anche lì noi l'abbiamo detto, ma forse lì ci sono questioni di anticostituzionalità poi di questo tipo. Va bene, però come dire, ci sono tante cose che in questi mesi sono successe, ne abbiamo inanellate una dietro l'altra e non è più sufficiente oggi una posizione di discussione solo all'interno. E non possiamo neanche francamente attenderci, se poi sarà così, non lo so, che ci sarà qualche corte costituzionale che ci darà ragione o non ci darà ragione, anche perché da quello che abbiamo sempre insegnato poi si influenza anche i giudizi in base al movimento che tu hai costruito e messo in campo. Quindi il cerchio si sta chiudendo e si sta chiudendo, purtroppo dobbiamo prenderne atto, con una linea che non so se è perché hanno paura di mettersi contro un giudizio generale sul paese o quant'altro, però che oggi è una linea che rompe con la nostra tradizione, rompe con i nostri legami, che fa costruire un sindacato totalmente diverso. E siccome questo è l'elemento che abbiamo, io penso che forse una discussione tra di noi, che riesca anche da fuoriuscire dai vari schemi che ci siamo dati a livello congressuale e quant'altro, perché in questo momento uno deve avere un po' di coraggio, perché non possiamo chiedere il coraggio ai lavoratori se i dirigenti sindacali non hanno il coraggio. E in questo momento dobbiamo avere più coraggio, non solo di fare una battaglia politica all'interno della CGIL, anche rompendo alcuni schemi, alcune situazioni di questo tipo, ma dobbiamo essere messi in campo. Quindi siamo in ritardo rispetto allo sciopero, però questa roba qui noi dobbiamo dare un segnale chiaro che non possiamo dire che intanto, io non so a cosa si riferiva Nicola, ma intanto è passato, dobbiamo prendere. No, io non sono per fare le battaglie, cioè io voglio fare una battaglia, magari la perdo, ma voglio fare e provarci a fare la battaglia. Io non posso accettare che c'è un cambio di passo di questa natura, sta succedendo queste cose e in questo momento la CGIL, dopo aver detto che sono 16 ore di sciopero, oggi non dice più le altre 8 ore, non si sa cosa sta facendo. Certo, è casa nostra, dobbiamo difenderla, però dobbiamo anche difenderla sapendo che una certa impostazione, una certa linea politica, che non so quanto dipende dal PD, ma che è frutto di un'idea, di un altro modello sindacale, che si è fatto largo all'interno della CGIL, noi ci batteremo che dobbiamo provare, se riusciamo, al di là dei personalismi, come si è detto prima, a trovare punti in comune per cercare di fare una battaglia di un certo tipo. Se no, questa roba qui rompe qualcosa di estremamente peculiare, importante, unico nel panorama italiano. E non so neanche se questa roba alla fine regga. Io voglio essere molto chiaro, siamo tutti per l'unità della CGIL, guai far diventare la CGIL quello che è diventato per i partiti politici della sinistra, perché sarebbe un disastro. Però le differenze, le pratiche sindacali che sono in atto oggi stanno sempre più creando una distanza tra noi e i nostri rappresentanti, tra noi e i lavoratori, e questo è il male più grosso di oggi. Cristina Vaccani dall'amministrazione provinciale. Ecco. Io sono una lavoratrice, non sono una esperta come qui in materia, proprio. Dico due cose importanti. Volevo chiedere se questa situazione della CGIL è avvenuta con l'avvento della Camusso o in qualche altro momento. E poi io come iscritta alla CGIL, cioè in questo momento non vorrei stare alla testa. Nel senso, questa parte del mio non mi riconosco in questa parte di CGIL, mi riconosco per esempio nella sua. E una lotta interna così, cioè sapere che che verrà approvato l'articolo 18, cioè senza che ci sia un contrasto, non mi ci trovo. Grazie. Ciao, io sono un delegato tessile della RATI, ho avuto l'onore di avere vicino a Cassina a fare le assemblee per lo sciopero e devo dire che da noi lo sciopero ha avuto successori, quindi anzi sono state indette altre 4 ore, c'era di mezzo la scusa anche dell'azienda perché adesso facciamo parte della Marzotto, una grossa multinazionale, quindi però adesso c'è un'aspettativa e quindi questa aspettativa non va assolutamente delusa. Mi sembra di vedere il momento, nel 94 c'è stata grossa manifestazione a Roma contro la riforma delle pensioni, in fabbrica c'era entusiasmo e tutto, e poi alla fine la riforma l'hanno fatta. Ecco, queste delusioni sono delusioni forti. Il problema è che io vedo un'assemblea, non so quanti delegati di fabbrica o lavoratori che non siano pubblico impiego, quindi, però io so che lavoro in società c'è in tutte le categorie, quindi io mi chiedo cosa si può fare per coinvolgere queste categorie, avere un coordinamento per una richiesta forte di continuare con lo sciopero, con altre forme di lotta, con coordinamenti, non so, e quant'altro. Perché effettivamente vedo i lavoratori che sono là che aspettano qualcuno che dica qualcosa, ma non sanno assolutamente niente. Quindi penso ci sia la necessità di affrontare questa cosa e di affrontarla il più presto possibile, perché se andiamo avanti così le delusioni se ne vanno in fretta. Buonasera a tutti, mi chiamo Avidi, intervento su due temi in modo particolare, uno mi coinvolge personalmente, nel senso che sono esodato mi reputo tutto sommato nella vasta famiglia degli esodati nella categoria tra le più, tra le meno penalizzate, cioè faccio parte degli ex lavoratori del credito, quindi vari messaggi che mi arrivano. Semplicemente ho firmato il fondo e sviluppi delle aziende, quindi ho avuto la fuoriuscita, ma non la mancetta, no, quella no, sinceramente no. Alcuni quadri l'hanno avuta, sì, è vero, nel mondo del credito. Quindi mi si dice che la categoria bancaria della stessa Fisac-CGL, che oggi ha fatto presidi, si è vista anche al TG3, insomma, tutto sommato siamo pur sempre una categoria che rispetto a quell'immobilità, siamo gli esodati di lusso, insomma, a cui il governo dei banchieri probabilmente darà un trattamento un po' più privilegiato rispetto agli esodati di serie B, C e D. Io rispetto a questa visione, essendo di formazione di sinistra, non la condivido, cioè mi reputo, come si può dire, un compagno simile agli esodati, metalmeccanici, eccetera. Ecco, vabbè. Quindi, a parte questa cosa, che credo che nel caso mio sarà un po' più risolvibile, pur con lui, per ora è preventivato 2 anni senza stipendio, senza pensione. Credo che la categoria bancaria, probabilmente la FISA, eccetera, probabilmente la risolverà, ma non lo ripeto, insisto nel dire, non condivido questo modo, diciamo, un po' di categorie, sistemare le categorie privilegiate e gli altri dimenticarli perché sono figli di un Dio minore, non va bene. Condivido anzi certe dichiarazioni di sindacalisti per dire che il problema esodati va risolto con l'azzeramento della controriforma della pensione Fornero, cioè se no, finita la fascia di questi 2 o 3 anni in cui si sono creati esodi, se manteniamo l'età pensionabile a 67 anni anche per le donne, il problema si ripresenta l'anno prossimo, fra 2 anni, eccetera, eccetera. Quindi va risolto alla radice. Non solo, ma il problema si risolve anche ristabilendo il diritto, cioè se io ho siglato, vendo la casa vecchia, perché il 1 gennaio 2013 mi viene garantito l'acquisto della casa nuova, cioè la pensione INPS, anziché il fondo esuberi di categoria, ecco, questa deve essere garantita per tutti. Non, ecco, questa è una visione che andrebbe attuata per tutti, non per la categoria privilegiata degli esodati. Poi un altro tema che in questa sede ho visto che non è emerso sono i diritti dei migranti. Cioè questo governo antirazzista, si dice, col ministro Riccardi, niente poco di meno che dell'associazione vicina sostanzialmente al mondo cattolico, solidale, addirittura vaticano, aveva promesso di cancellare la Bossi-Fini, aveva promesso di cacciare i razzisti dall'area di governo e obiettivamente la Lega non c'è più. Però io non vedo che faccia cose sostanzialmente antirazziste, molto diverse dai leghisti. Cioè, allora, il decreto flussi con cui si garantivano certe sanatorie non è stato fatto. La legge Bossi-Fini, figurati se la cancellano. I centri di detenzione per migranti ce n'è più di prima. Il perfido Maroni dichiarò che Lampedusa non era un approdo sicuro e quindi evitò che approdassero i disgraziati dal Nord Africa e lo vietò. Tuttora è vietato, cioè chi parte dalla Libia, Tunisia, Marocco deve andare a Sciacca, 200 miglia marine in più, crepano centinaia di gente in più. Però se lo faceva Maroni è razzista, se lo fa Riccardi non lo è. Una visione un po' strana. Oggi sono crepati migranti dall'Egitto e dalla Libia e dall'Afghanistan approdati nel Salento e non c'è la Lega al governo e su molti temi di questi temi di solidarietà, alcuni sanno che faccio solidarietà per i rifugiati dalla Libia eccetera eccetera, la sanatoria sui rifugiati dalla Libia non è stata fatta, cioè, la maggioranza sono in attesa di asilo politico negato e in sede di appello nei tribunali d'appello per far sì che vengano, se no vengono rivotati in Libia, in Afghanistan, in Pakistan. Non è risolta questa faccenda sul piano politico. poi non ci sono altri interventi, io chiuderei per le ginocchia. Io volevo, mi chiamo Salvatore Lamartina, funzione pubblica, volevo porre soltanto una domanda: che fine faranno i lavoratori che hanno limitazioni o problemi di salute? Questo. Scusate, io parto da un presupposto. Ad un'assemblea come questa, che è già un'assemblea coraggiosa, è un'assemblea fatta da compagni da compagni della CGIL, trovo sintomatico che a questa assemblea si chieda le risposte dei problemi del mondo intero. Questa assemblea aveva in sé due argomenti che già di per sé sono un programma di lotta e di lavoro da qui ai prossimi tempi: la riforma del mercato del lavoro e con dentro una questione importantissima dell'articolo 18, che vuol dire esattamente non poter essere licenziati senza giusta causa e senza giustificato motivo. Quindi due grandi questioni che stanno interessando il mondo del lavoro italiano. Quindi io chiederei con molta tranquillità ai compagni che fanno richieste, domande a questa assemblea, di cominciare a calibrare la richiesta e la domanda. Ovviamente le altre questioni, dai problemi dell'immigrazione alle questioni del come si debbono aggiustare i problemi geopolitici nel mondo, beh, ci penseremo in un'altra occasione, ma oggi all'attenzione nostra c'è questo tema, ed è un tema, per come è stato esposto, che chiama tutta la CGIL. E guardate, quando si dice non solo la CGIL ma anche fuori dalla CGIL, beh, noi stiamo parlando innanzitutto delle responsabilità di un'organizzazione che ha quasi 6 milioni di iscritti, e se ci mettiamo anche i nostri parenti più stretti e quelli che guardano a noi con attenzione, beh, guardate, già siamo a circa 10 milioni di persone, di soggetti dentro questo paese che possono essere influenzati dalla nostra discussione. Dopodiché è evidente che non basta la discussione all'interno della CGIL. E guardate, se si chiede e si dice vogliamo fare il referendum su questo tema, è perché vogliamo andare in mezzo ai cittadini. Una consultazione. Perché questo vuol dire che apre un dibattito nel paese. Questo vuol dire che in ogni città, in ogni comune, piccolo o grande, si devono aprire dibattiti, discussioni, raccolte di firme, banchetti, parlare davanti al mercato in maniera continua, perché vuol dire 3 mesi e passa di azione, e vuol dire esattamente mettere nella condizione anche il prossimo Parlamento. Perché forse qui ci si dimentica di una cosa, ma la voglio dire non per propaganda politica: in questo Parlamento c'è una distonia che non esiste da quasi 100 anni. Non c'è nessun partito che si possa chiamare o che possa avere riferimenti alla storia del movimento operaio. La sinistra politica dentro il Parlamento italiano non c'è. Questo è il dato vero. E se non capiamo questa cosa, e che quindi serve esattamente costruire le condizioni per riportare anche in Parlamento, perché l'azione sociale da sola non basta. Ma noi abbiamo fatto lotte in questi anni durissime, ma i risultati non ci sono, eh? Ci sono risultati negativi, non ci sono risultati positivi. E allora noi dobbiamo capire anche il perché succede questo. E siccome l'azione sociale da sola non è esaustiva, perché se non c'è qualcuno che dentro il Parlamento poi porta avanti le nostre istanze, beh, guardate, diventa difficile, eh? Diventa difficile. E allora per questo che noi dobbiamo avere l'accortezza innanzitutto di dire che noi come parte sociale faremo la nostra parte, e quindi lavoreremo dentro la CGIL per far sì che queste posizioni possano diventare posizioni di maggioranza. Io voglio ricordare a tutti quanti noi, a proposito degli inizi degli anni 90, che quando agli inizi degli anni 90 dentro il paese, nella crisi di questo paese, si arrivò addirittura non solo a cancellare la scala mobile, ma a stabilire un patto, una sorta di accordo di politica dei redditi che voleva significare la riduzione programmata dei salari, abbiamo scoperto qualche anno dopo, conti alla mano, che grazie anche a quell'accordo, beh, in Italia c'è stato un trasferimento di ricchezza economica dai salari alle rendite e ai profitti. Nel senso che è transitata una grande ricchezza, si parla di circa il 10 punti percentuali, certo non realizzati solo dal 93 in poi, il processo era avviato anche prima, anche in precedenza, ma noi siamo in presenza di una quota di ricchezza prodotta attraverso il lavoro che è transitata dai salari ai profitti e alle rendite. Beh, ma guardate, dentro la CGIL non erano in molti a denunciare questo fatto. Dentro la CGIL c'era una minoranza che denunciava questi fatti, ma noi sapevamo che quello era un pensiero di maggioranza. Guardate, qui oggi abbiamo presente un professionista, avvocato, voi lo conoscete a Como, immagino, forse più giovani magari no, ma sicuramente altri compagni lo conoscono. Lui è stato in CGIL, lui è stato, come fatto di aneddotica, quello che ha denunciato alla commissione di garanzia, allora si chiamavano dei probiviri, Bruno Trentin, perché non aveva rispettato lo statuto della CGIL. Perché nel firmare un accordo non aveva sentito gli iscritti alla CGIL. Nel senso che noi siamo una storia articolata, ricca di fatti e di eventi, che hanno spesso rappresentato, partendo da una posizione di minoranza, ma che non vuol dire minoritaria, di minoranza non vuol dire minoritaria. Allora noi dobbiamo avere il coraggio, così come stiamo avendo il coraggio, di fare iniziative in giro per l'Italia. Quella che Lucia, quella che Matteo hanno realizzato assieme a tutti quanti voi, è un'iniziativa che noi stiamo cercando di ripetere in giro per l'Italia. E che in giro per l'Italia iniziative di questa natura le stiamo mettendo in moto, perché abbiamo il bisogno di parlare tra i lavoratori, con i lavoratori, dentro la CGIL ma anche fuori dalla CGIL. Questo noi dobbiamo saper fare, dentro il messaggio che bisogna collegare, mettere assieme azione sociale e azione politica, non si scappa. Ed è per questo che io ho detto c'è una responsabilità del Partito Democratico. E guardate, io l'ho detto non per nascondere chissà che cosa, ma per dare le responsabilità a chi ce le ha. Voi immaginatevi, ve l'ho già detto prima, il Partito Democratico che doveva assumere una decisione contro il parere della CGIL. Ci sarebbero stati problemi, ma grossi. Tant'è vero che al loro interno si sarebbero spaccati tra l'anima democristiana presente in quel partito e un'anima che invece di tanto in tanto si ricorda da dove provengono le loro antiche radici storico-culturali. Ora noi dobbiamo costruire le condizioni perché a partire da questo la CGIL recuperi la sua totale autonomia. Io ho detto che la posizione della CGIL fino al giorno 23 di marzo, ho cercato di elencarvi le date, non per nulla, ma per capire esattamente come poi nella cronologia delle date e fino a una certa data noi abbiamo detto l'articolo 18 non si tocca, lo diceva tutta la CGIL, ma tutta la CGIL. E la linea politica della CGIL era che l'articolo 18 non andava toccato. Dopodiché cambia lo scenario, vuoi perché c'è l'intervento del Partito Democratico, vuoi perché c'è l'intervento anche del Presidente della Repubblica Napolitano, perché anche di questo si tratta. Il Presidente della Repubblica Napolitano in tutta la vicenda della crisi economica di questi mesi ha una responsabilità gravissima, non di poco conto, così come ha consentito a questo Paese di non liberarsi dal centrodestra che lo governa, perché c'erano le condizioni per andare alle elezioni e il Paese non avrebbe dato la maggioranza a Berlusconi, perché i segnali erano molto chiari. Invece si è voluta una democrazia sospesa, si è voluta una democrazia non liberata, si sono create le condizioni perché questo Paese fosse ancora una volta governato dalla paura e dalla preoccupazione. Guardate quello che è successo in Grecia, guardate, è importante da un punto di vista non solo simbolico ma anche del messaggio. Beh, la paura ha fatto sì, una lezione oggi, un'elezione domani, fino a che si è determinato il fatto che oggi c'è una maggioranza nel Parlamento che consente di fare un governo di centrodestra, perché il Partito Socialista Greco lo considera un partito di centro e la destra di Nuova Democrazia in Grecia ha vinto le elezioni. Ma c'è anche un altro messaggio dall'elezione greca che noi dobbiamo saper assumere. Una sinistra spappolata, una sinistra divisa, una sinistra incapace di mettersi assieme, una sinistra che non riesce a trovare manco nel momento più grave della sua storia a trovare la capacità di mettere assieme le energie e assumersi anche la responsabilità di governare il paese. Piuttosto che porsi questo problema, ci si divide, ma poi governano gli altri. E siccome quando ho cercato di parlare del patto Euro Plus, del fiscal compact e delle altre scelte che le istituzioni europee hanno fatto, beh, guardate, il riferimento era molto chiaro. In Europa in questo momento ci sono 23 paesi su 27 che sono governati dal centrodestra. Ma questa cosa ci dice nulla? E chi stanno governando con la cultura neoliberista in pieno? Ma noi le possiamo identificare in maniera precisa, punto per punto. E allora c'è bisogno di cambiare modello, c'è bisogno di cambiare paradigma se vogliamo uno scenario diverso. Ed è per questo che io dico, noi la battaglia la dobbiamo fare dentro la CGIL. E alla compagna dico una cosa: tu non ti devi, noi ci diamo del tuo ovviamente, tu non ti devi deprimere, tu devi trovare la forza e l'energia per stare con quei compagni dentro la CGIL che fanno la battaglia politica, perché se non facciamo questa azione di coraggio, e anche perché c'è poco da fare, in una grande organizzazione storicamente ci sono differenze politico-culturali e ci sono momenti che una posizione rischia di avere il sopravvento rispetto ad un'altra. Ovviamente per quanto ci riguarda noi siamo convinti che queste nostre ragioni noi le dobbiamo poter conquistare. Magari ci vorranno degli anni, sì, è vero, Non è mica detto che domani mattina noi vinciamo, ma dobbiamo sapere che le nostre ragioni dentro questa organizzazione sono opinioni assolutamente diffuse. Quindi non sei sola, non ti devi sentire sola, ma ti devi sentire in compagnia di tantissimi, di migliaia di compagni e compagne che vogliono portare avanti la tua battaglia. Quindi non si deve parlare di stracciare tessere della CGIL, perché non c'è in questo momento, con tutti gli errori anche di questa fase, un'organizzazione sindacale migliore della CGIL. Per questo che io ti dico, devi stare qui assieme a noi, assieme ai compagni della funzione pubblica, della Camera del Lavoro qui a Como, a continuare la battaglia politica per cercare di rendere migliore questa organizzazione. Noi dobbiamo poi costruire le alleanze dentro la CGIL e fuori. E guarda, valeva per Nanni Alleva, vale anche per Pinuccio Gallo, vale per tantissima altra gente che c'è nel paese, che guarda a noi con interesse, che guarda a noi per il portato storico, culturale, ideale che abbiamo. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo sicuramente tutte quelle condizioni necessarie per poterci riprendere anche da questa situazione che io considero maledettamente un errore che il gruppo dirigente sta portando avanti. E allora per fare questo noi ci dobbiamo attrezzare anche a creare le condizioni perché anche dentro la CGIL, e che non è un problema di personalismi, non è un problema di personalismi, ma noi dobbiamo mettere assieme, a partire dal merito, dai contenuti. Il merito è l'elemento che testimonia e che fa il differenziale. È sul merito che noi dobbiamo determinare chi sta con noi o chi è contro di noi. Sul merito. Dopodiché non ci sono bandierine, la bandiera della CGIL è una. Quindi non ci sono bandierine dentro la CGIL. C'è la bandiera della CGIL. Dopodiché ci sono le posizioni politiche. Noi abbiamo, su questo tema della riforma del lavoro e sull'articolo 18, individuato due grandi questioni. E quando parliamo della riforma del mercato del lavoro, stiamo parlando della precarietà. Stiamo parlando in modo particolare di questa grave piaga. Ma guardate, nel 1997, quando aprirono alla flessibilità nel mercato del lavoro in Italia, e tutta la sinistra, almeno quella che contava, era d'accordo. Così come la stragrande maggioranza dei gruppi dirigenti della CGIL era d'accordo a fare la riforma del mercato del lavoro, per non parlare di CISL e UIL che erano sdraiati. Beh, ma noi abbiamo fatto una battaglia politica contro la precarietà stabilita dal famoso pacchetto Treu nel 1997. In 24, nel direttivo della CGIL, in 24, che erano i compagni, allora si chiamavano di Alternativa Sindacale, e sono gli stessi, guardate, di Lavoro Società oggi, che votarono contro nel direttivo di quel provvedimento, che era un accordo di concertazione. Oggi noi ci troviamo dentro l'organizzazione un convincimento che bisogna fare una battaglia contro la precarietà. Dopodiché, purtroppo, si fa passare un provvedimento che lascia 46 forme di precarietà e di accesso al mercato del lavoro, ed è sbagliato anche per questo. Ora, da questo punto di vista, siccome noi dobbiamo esprimere le nostre opinioni sempre al massimo della coerenza e della libertà, noi diciamo che siamo contrari a questa riforma del mercato del lavoro perché non sana il dilemma della precarietà, ed è per questo che noi lo contrastiamo. Per concludere, la questione delle pensioni, anche se non è argomento all'ordine del giorno di quest'oggi, ma che fa parte dell'intero pacchetto oramai che sta assumendo questo governo. Io sugli esodati voglio dire una roba: non tutti gli esodati sono uguali. e se la posso dire con un pizzico di comprensione da parte vostra, per me l'emergenza non sono gli esodati, per me l'emergenza sono le norme che hanno stabilito che le donne da 60 anni devono andare a 67 anni e con l'aspettativa di vita fino a 70, ad esempio. Per me la distonia e la forte contrarietà che mi opprime spesso e sovente anche la bocca dello stomaco e vedere quei lavoratori che fanno i lavori manuali o che fanno i lavori sacrificati e che dovranno andare a lavorare fino a 67-70 anni con l'aspettativa di vita. A me dà fastidio vedere un giovane che inizia a 15 anni a lavorare e se ha la fortuna di avere una carriera lavorativa continuativa pagando i contributi, si deve sentire addirittura una sorta di reietto perché 40 anni non gli bastano più per andare in pensione anticipata, perché hanno cancellato le pensioni di anzianità e magari dovrà lavorare 55 anni per andare in pensione e magari avendo una pensione inferiore rispetto a come veniva calcolata nel passato. Quindi io sono perché anche il tema delle pensioni, quando noi diciamo che la partita non è chiusa, non è che non è chiusa per gli esodati. Per me non deve essere chiusa per le donne che devono essere ripristinati il tempo dei 60 anni, per gli uomini 65 anni, e va ripristinata di nuovo la pensione di anzianità. Guardate, l'ha fatto Hollande, l'ha fatta subito Hollande, l'ha messo nel suo programma. E allora io vi dico ancora di più, noi dobbiamo avere la forza di dire bene, i voti dei lavoratori vanno a quei partiti che fanno queste battaglie politiche, che si impegnano nel loro programma a realizzarlo e a portarlo in Parlamento. Questo noi dobbiamo cominciare a dire, non avere confusione rispetto alle forze politiche su cui assegnare anche il nostro indirizzo di consenso elettorale. Noi dobbiamo cominciare a dire queste cose in maniera chiara e in maniera netta. E sugli esodati devo dire, beh, guardate, nei numeri che circolano ci sono anche coloro, io ti facevo prima la battuta, nel tuo settore tu sai bene che molta gente è stata esodata con gli incentivi, con 50, 60, 70, 80 mila euro per andarsene via. E tu sei stato, ha ragione lui, siccome non ti hanno sentito loro, la dico io, tu sei stato sfigato. No, li hai presi, ma non lo dire, lascia stare. La maggioranza non li ha presi. Ascolta, tu sai benissimo una cosa, che generalmente nel settore bancario, per gli effetti che determinavano gli accordi, c'erano 3.000 esuberi, bisognava fare le domande, ce n'erano 25.000 che facevano la domanda. E quando ci sono fenomeni di questa natura, e non è perché uno, sai, viene preso a calci in culo, no, avviene perché generalmente c'è l'incentivo. Se non c'è una domanda che è 10 volte superiore addirittura ai numeri che vogliono esodare, ma c'è ancora qualcosa di peggio nelle poste e anche in altri posti. Sono andati via esodati con il patto che assumevano i figli, chiaro? Posso dire una cosa? No, perché siamo alle conclusioni. Siamo alle conclusioni. Poi ti spiegherai con loro al bar quando li vedi. Ma noi dobbiamo avere l'attenzione ai grandi e veri problemi. Dopodiché la questione degli esodati, guardate, è diventata sul serio una questione, per non parlare dei 60, dei 65, dei 40 anni, e di non parlare delle condizioni vere. E allora noi dobbiamo avere la capacità di dire: si chiuda quanto prima sta storia degli esodati, perché ci ha già rotto più del necessario, e ritorniamo alle grandi questioni. Noi dobbiamo ripristinare i 60 anni delle donne, i 65 anni degli uomini e i 40 anni per chi inizia presto a lavorare. Perché quella lavoratrice, quel lavoratore che iniziano giovani a lavorare, beh, io credo che la società debba risarcire questi giovani, perché sapete che c'è una vita diversa tra il giovane che va a lavorare a 15 anni in fabbrica, in azienda, dove volete voi, e l'altro giovane che può vivere una vita diversa da studente e magari da universitario, magari 10 anni in più di vita diversa. Guardate che il differenziale di queste due vite non lo recuperi a 60-65 anni, perché c'è un salto di vitalità enorme che segna il differenziale tra chi è andato a lavorare a 15 anni e chi magari ci è andato a 25 anni perché ha dovuto studiare, perché ha dovuto fare l'università e compagnia cantante. Da questo punto di vista, questo elemento mi fa dire che la nostra proposta assume un connotato classista a favore, in questo caso, dei soggetti più deboli, che sono coloro che a 15 anni sono costretti ad andarsene a lavorare. Quindi noi dobbiamo cominciare a recuperare queste cose, valorizzando il lavoro manuale che si fa dentro il settore privato, ma anche dentro il settore della pubblica amministrazione. E nella pubblica amministrazione sono molti i lavori che sono sacrificati e che hanno la, devono avere la possibilità di poter andare in pensione prima del necessario. Non cito i casi perché ne dovremmo citare a iosa, dalle infermiere negli ospedali, a chi lavora nelle case di riposo per gli anziani, a chi lavora con i bambini, quindi ne abbiamo di casi, eh? Ne abbiamo di casi. Quindi voglio dire che da questo punto di vista noi dobbiamo saper recuperare questi argomenti con forza, e io ringrazio Lucia, la funzione pubblica di Como, che continua la tradizione di essere ancora un punto importante di azione sindacale, ma che è anche un punto di riferimento a, dal punto di vista anche politico. Continua la tradizione che era già iniziata con Pino, che ringrazio ancora perché è un vecchio amico e quindi per questo che l'ho citato in più occasioni. Quindi io vi ringrazio sul serio e ringrazio tutti quanti voi, buonanotte.